La Croazia è fuori dal mondiale. Un applauso! Grazie pubblico! Presentatore, organizzatore! E braccio destro di casa, Andrea Fadenti, il mio social media manager, colui che si occupa di far sapere a più persone l'esistenza di questa serata. È stato un successo il tuo lavoro. Grazie, complimenti. Grazie. Mai stata così vuota. Grazie. Io mi sono impegnato. Forse, e dico forse, giovedì scorso con un paio di elementi abbiamo dato il colpo di grazia. Chi c'era ieri e chi c'era due giovedì fa? Due giovedì quando era? Martedì poi, sì, vabbè. È il minore dei danni tra tutto quello che è successo. Chi è reduce da quella serata? Qualcuno è venuto due martedì fa? Io. Ci dica. C'eri? Ecco, io non c'ero. Ah, adesso ci divertiamo. Faccio una recensione della serata e mi dica anche se è vero che a fine serata lei aveva paura di essere violentata da uno dei comici. Oh! Mi puoi indicare il comico in questione? Non c'è. Ma chi è? No, non faccio il nome. C'è la... Sì, sì, è magro, sì. Magrolino, meno male. È lui, è lui. Sì, sì. Pensa, eh? Non facciamo nomi per una questione di privacy. Io gli ho descritto la serata usando testualmente queste parole. Se fossi stata una ragazza, avrei avuto paura di eccetera, eccetera. Grazie, grazie della testimonianza. No. No, no, infatti qui siamo fluidi, non ce ne fotte un cazzo. Qui le vittime possono essere di ambo i generi. Li stiamo facendo accomodare. Oh, non abbiamo neanche dovuto urlare per farli sedere. No, strano, abbiamo parlato di... Forse si sono resi conto che non c'è più l'elemento dell'altra volta e si sono tranquillizzati. Non è che abbiamo un pubblico troppo educato. Fateci sentire che ci siete, che non siete svenuti. Siete dispiaciuti per la Croazia? Ve ne frega qualcosa dei mondiali? Ha perso 3-0. Quanti qui nel pubblico hanno l'AIDS? Beh, è una bella domanda con cui rompere il ghiaccio. Lui è il mio uomo. Chi è il tuo uomo? Ah, lui sì, lui. E dopo stasera lo avrà anche lei. Un applauso! Grazie. Lui è un tuo grande fan, deduco. Io penso che voglia coinvolgermi in una cosa a tre, ne sono molto grato, gentilissimi. Lei ride, lui ride meno. E non so se è grave questa dinamica. O lui potrebbe picchiare. Potrebbe picchiare. Lui potrebbe tirare fuori il coltello. Tu di solito a questi fan chiedi se vogliono esibirsi, sai che sei un ragazzo che... Non gliela hai voglia di fare 5 minuti sul palco. A chi lo stai chiedendo, a lei o lui? Ma tutti e due, come coppia. Ma intendi 5 minuti di che cosa? Quello che volete. Ah, posso anche chiamare. Volete fare 5 minuti? Qua, sul palco. Lui sta tentennando. Pensate, la bottiglia che lì, a che punto è? Allora, bisogna ordinarne un'altra. Prendetene un'altra e tanto vi sciogliete ancora un po'. Sta arrivando ancora gente. Come va lì? Ehi, giovani alla cassa, signori. Li stai spaventando. Ho detto giovani alla cassa. Non ho detto niente di che. Secondo me è gente che non sapeva che c'era la serata. E quindi vuole farsi i cazzi suoi. E adesso secondo me se ne vanno. No, vediamo. No, stanno facendo le tessere, quindi sono interessati. Vogliamo ricordare il martedì quale altra serata figa c'è. Esatto, esatto. Dove si ride davvero. Dove si va se uno vuole ridere il martedì? Alvaro e... Alberto. Cosa stai dicendo? Alvaro, Alberto. Ma chi è il mercoledì? Adesso lo fanno martedì apposta per far andare via la gente da qua. Un applauso anche Pensimì! Sai che avevamo una battuta bella di tutte, l'hai fatta malissimo. L'abbiamo decostruita. No, tu l'hai decostruita. Questo è il lavoro del comico, costruire e decostruire. Bello, bello. Sì, ma noi siamo qua per caso. Allora... Questa è un'osservazione giustissima. La mia coppola definisce la mia esistenza in questo momento. Vedete il suo stile Peaky Blinder un po'. Potrei darti ragione sul giubbotto, però mi ha chiamato lui dentro velocemente. Ah, quindi non hai avuto il tempo di cambiarti, poi scusa. Vuoi fare un ballo, vuoi toglierti i vestiti in maniera... Tanto ormai a sto livello vale tutto. Allora, io non ho queste velleità, ma ripeto, questo è un palco aperto. Se qualcuno di voi nel pubblico vuol farci vedere un numero, è ben accetto. Siamo tipo la corrida, la stiamo tirando lunga perché vediamo gente ancora in piedi. Come stiamo andando? Come stiamo andando? Vi stiamo annoiando? Stiamo anche tirando lunga perché non sappiamo. Grazie, grazie, grazie mamma, grazie papà. Sembrano degli assistenti sociali. Sì, esatto, dove noi siamo quelli del comune, quelli messi lì un po' particolari. Quelli più arrabbiati sono i ragazzi là in fondo all'angolo. Loro sono arrabbiati. Siete arrabbiati voi in fondo? Loro non sanno perché sono qua e hanno una certa voglia, che non sanno spiegarsi, di prenderci a schiaffi. Chi è la prima volta che viene qua? Può palesarsi con un'alzata di mano? Te l'ho detto, te l'ho detto. Loro tre, tac, vedi. È la prima volta che non ci sono. Sono loro, hanno viaggiato nel tempo. Sai che sarebbe bellissimo? Ripeto, forse due martedì fa ai signori abbiamo dato il colpo di grazia. Anche loro hanno avuto la paura che ha avuto lei quando si è fatto buio. Comunque, buongiorno. Tutti grandissimo, un applauso. Chi Gabriele è? Donolato, un doppiatore. Ah, un doppiatore. Ha doppiato Hercules. Quando voi vedete quel telefilm che amate tanto, è lui. Ma non è vero, ma Hercules ero bambino io. Quanti anni hai, scusami? 48. Ma non è vero? Ma stai scherzando? Guarda che bella pelata. Complimenti. Che c'ha. Complimenti. Guarda quanto è bella la sua pelata. No, più che altro è tutto Catarin frangente, cazzo. Esatto. Proprio... Hai ragione, cazzo. Comunque c'è stato poco entusiasmo per Gabriele Donolato. Oh, ragazzi, ripeto, Hercules, un applauso oh, per dai, Gabriele eh? Donolato. Un prodotto che tutto il mondo... Ci prendono a schiaffi quei tre, sì. Là, te lo dico. Ma come avete saputo di questa serata? Ah, ma ormai gente che risponde a caso. Lei è colpa sua di chi? Tua e di Instagram. Sua. Sua di chi? Ah, ma siete amici voi? Sì, sì. Cosa adesso lo so, sono seduti in posti diversi. Ma si vede, sono amici. Ah, dici che hanno... Vabbè. Adesso abbiamo creato... Sai quei nostri bei buchi? Posso dirti... Andrea, non è che se lo seguono su Instagram sono suoi amici. No, no, non intendevo questo, no, no. Io non ho i social, ma so come funziona più o meno. So, dopo vi faccio un master sui social. Andiamo avanti? Io ti direi... che questa è una delle nostre presentazioni migliori, sai, anche secondo me. Sì, sì, sono fiero. E non abbiamo fatto le gag che sì. Avevamo preparato. Fatele! Dopo. Rimetti la cuffia. Me ne rendevo conto. Hai perso qualcosa senza cuffia. Chi è il primo? Il primo abbiamo detto che dobbiamo far sempre esibire un pezzo di merda che non si è mai esibito. Va bene, sappiamo solo il nome. Ivo! Ivo, chi è? Grande. Bravo Ivo! Non lo sapevi, Ivo! Una sorpresa! Aspetta, ora... Aspetta, aiutiamolo, il primo non lo sapeva, aiutiamolo, poi che se noi lo aiutiamo, quindi figurati. Caramba, che sorpresa! Te non lo sapevi! Ma che bella sorpresa, grazie! Te la senti, Ivo? C'hai con noi? Ma vabbè, sì, tanto ormai sei sul palco, sti cazzi! No. Ivo! Sei un bravo! Vabbè, scusate, stavo mangiando una caramella e non me l'aspettavo questa cosa. Vabbè, se sputacchio è per questo, ma tanto siete lontani. Niente, allora, volevo dire questa cosa qua. Proprio una cosa veloce. A quanti di voi piace la montagna? Solo due? Tre? Mi spiace, c'è proprio una vita triste. A me la montagna, ragazzi, fa cagare. Vi devo dire questa roba. A me proprio la montagna mi mette tristezza. Io se so che devo andare una domenica in montagna, ho tutta la settimana davanti che ho già le palle di traverso. Questa roba della montagna. Cioè, secondo me la montagna è truffaldina. Nel senso che tu dici vado in montagna, arrivi in montagna, la vedi che è lontana, dici vabbè, faccio due passi e ci arrivo subito. Invece tu vai e non ci arrivi mai a sta montagna. Io l'ultima volta che sono andato in montagna, per me scendere dalla macchina, andare alla colonnina del parcheggio, mettere la monetina, prendere il biglietto, tornare in macchina, basta, per me potevamo averla già finita sta passeggiata. Invece no, la devi fare sta passeggiata. Allora, mentre tu cominci a camminare e comincia questa salita, tu cominci a fare, c'è un fiatone, vado, e intanto che cammini dici, ma che cazzo me l'ha fatto fare. E mentre sei lì, che sputi i polmoni, che tiri giù le madonne, tutte vengono giù, no? Tu stai camminando, arriva dietro una signora, che magari alla posta la faresti anche passare davanti, perché diciamo c'è una vecchia di merda. Questa signora arriva, ti supera, ti guarda e ti dice ma dai che ti settiamo giù, vai, no, ma vai. E tu gli vorresti dire, ma ringrazia Dio che siccome sto morendo, non ti posso prendere, non ti posso buttare giù dalla rupe, perché altrimenti avrei già buttato giù subito. E quindi tu vai avanti a camminare e mentre cammini ti superano le famiglie, ti superano i bambini, tutti ti superano. Quando vai in montagna poi, tu ci vai con i tuoi amici e questo può essere bello e brutto. Può essere bello perché sono i tuoi amici, ti vogliono bene e soprattutto se tu c'hai un amico che invece cammina di più, questo va avanti, ti guarda così come quel meme dell'indiano allo stadio, no? Mentre tu stai arrivando, ma tu piano piano ci arrivi e sai che non ti può dire un cazzo perché è lui che ti ha invitato per venire in montagna. D'altra parte però gli amici cosa fanno? Non hanno freni e quindi ti dicono tutto quello che pensano. Allora magari tu arrivi e lui ti dice, ma sai cosa c'è però? Secondo me l'anno scorso eri un po' più in forma. E ti cominciano a girare i coglioni. Oppure ti dico, sai cosa? Secondo me dovresti ricominciare a correre. E ti girano ancora di più. Allora alla fine ti dice, no, forse dovresti cominciare a mangiare un po' di meno. Allora tu lo guardi e dici, ma lo sai che tua madre io me la ricordavo un po' meno puttana? Ma forse sto sbagliando io. Quindi riparti, vai avanti a camminare tranquillo, non ti preoccupare, mentre cammini tu vedi le seggiovie che ti passano sopra la testa e dici, ma perché i miei piedi sono qua invece che avere il culo là sopra che mi portava su diretto? Quando poi arrivi in cima, perché comunque ci arrivi, perché dopo a un certo punto è una questione di principio, quando tu arrivi in cima ti aspetti di arrivare su che ti facciano un applauso, qualcuno ti dica bravo, ce l'hai fatta, bravo. Invece tu arrivi su, sono tutti quelli che ti hanno sorpassato mentre camminavi che ti guardano e ti dicono è arrivata la merda, ce l'ha fatta. E tu gli vorresti mandare ancora a far culo, ma più della vecchia di prima ti manca ancora più aria, quindi non ce la fai. E quando poi arrivi su in cima ci sono quelli che associano la montagna alla filosofia e allora cominciano, no ma guarda, a me è proprio la montagna, niente, mi piace, io ho proprio bisogno di questo contatto con la terra. Oppure ti dicono, no guarda, io proprio in montagna proprio ritrovo quel contatto con la natura che invece in città perdo. Oppure la più bella è questa, no, io in montagna proprio ritrovo me stessa. Ma vaffanculo, io in montagna al massimo quando arrivo in cima voglio trovarmi un tagliere con dei formaggi e degli affettatini. Cioè proprio questa al massimo è l'unica cosa che voglio ritrovare in montagna quando arrivo su in cima. Magari anche con una birra media da 4 litri, se possibile. Quindi finisci di fare questa cosa, arrivi, guardi e c'hai una croce alta 3 metri. Lì invochi ancora tutti i santi che ti mancano perché sai che dovrai scendere. Lì capisci perché lo chiamano l'Altissimo. E a quel punto tu sei pronto per dire, ok, adesso se mi chiamate l'elicottero io salgo e torniamo giù. E invece ti dicono, no, dobbiamo rifarci la stessa scarpinata a tornare indietro. Allora tu li guardi e dici, ma scusate, ma allora cosa cazzo siamo saliti se poi dobbiamo tornare giù? Quindi ora capirete perché a me la montagna mi fa cagare. Ok? Grazie. Basta, io avrei finito. Non so se... Volete una caramella? Volentieri, sì. Non so se c'è. Non volevo disturbarti prima, ma credevo che questo si sarebbe sentito un po' di più di volume. Ah, e invece? E se vuoi era un pochino basso, per quello mi avvicinavo. Ah, scusa, scusa. No, no, scusa te che io venivo a romperti il cazzo, però non perché sapevo come manifestarmi senza romperti i coglioni. No, figurati, perché io ho questa abitudine che il microfono... No, già, scusa, non l'avevo visto, pensavo fosse una gag. No, no, mi scappavo. No, non l'avevo capito perché... Valerio l'avrebbe proprio fatto quella gag lì, quindi non conoscendoti... Gli scappava la gag anche a lui. Va bene, grazie mille. Signori, Ivo, grazie. Come ti chiami di cognome, Ivo? Ortelli. Pardon? Ortelli. Ivo Ortelli. Come un orto piccolo. Il nostro eroe di stasera che ha aperto... Ivo Ortelli! Ti trovo sempre meglio io te. Sei proprio un fiore. Guarda, io cerco di venire all'Exa bene. Nella migliore delle mie condizioni. Si vede. Psicofisiche. Citando la tua battuta, sembri Michael Schumacher dopo l'incidente. Povero Michael Schumacher. È andata così. Vogliamo fare un minuto di silenzio? No. Una ragazza scuote la testa anche molto infastidita. Chi? Lei adesso. Schumacheriana? Barrichelliana? Non te ne fotte un cazzo della Formula? Ah, basta, figurati, ci mancherebbe altro. Allora, io adesso metterei un altro pezzo di merda che non è mai venuto prima. Ok. Gianmi. Ma sì, un minimo. Gianmi, così, chi è? Dai, non chiedo un applauso, un ragazzo, valorizziamolo un minimo, porco Giuda. Un applauso, cazzo. Lo dico anche a te, Gianmi, secondo me questo è meglio, però fai te, io lo metto qua. A me piaceva se restavi e mi provavi a passare il microfono, però vabbè, mi fido. Sei sempre a scuola sua. Buonasera, Exage. Grazie del secondo applauso, grazie. Siete il pubblico migliore che ho mai avuto. Siete il primo. No, scherzo, io si sente dall'accento? Sì. Io vengo da Firenze, dicono che noi toscani siamo un po' campanilisti e chiusi, però io ho fatto questo viaggio all'estero per provare di no. E, stasera sono qui, spero non ci siano nutrizionisti in sala, perché io devo dirvi una cosa, cioè la frutta è il male e io ho le prove. Non mi credete? Io vi ricordo che siamo stati buttati fuori dal paradiso terrestre per una cazzo di mela, ok? E vabbè, qualcuno potrebbe dire, vabbè, ma Gianmarco, alla fine è stata la donna a cadere in tentazione e a commettere il peccato originale. Ecco, io a queste persone dico una solo una cosa. Sessisti! In un'epoca così progressista e femminista bisogna avere il coraggio di far ammettere alla frutta le sue responsabilità. Però, Gianmarco, alla fine la mela era solamente una metafora, un'allegoria per il frutto della conoscenza. Ah sì? E allora perché il Signore Dio ha scelto proprio una mela e non un bel cosciotto di maiale? Ora, la frutta è infima e bastarda. Mente, sapete qual è il tipo di frutta con il contenuto di grassi più alto? La frutta secca. Oppure, da un punto di vista botanico, cos'è un frutto? Un frutto è l'ovario fecondato che si trasforma nel frutto, appunto. Endocarpo, metacarpo, pericarpo. Facile. E se noi prendiamo questo criterio botanico e lo applichiamo alla frutta, sapete cosa diventano? Mele, pere, fragole, ananas e fichi? Falsi frutti. E i veri frutti quali sono? Pomodori, peperoni, melanzane, zucchini, olive, ci hanno preso per il culo tutto il tempo. Ci hanno preso per il culo, ste bastarde. Ci minacciano con le loro vitamine e sali minerali a volontà, ma chi cazzo sei Big Pharma? Vogliono portarci in uno stato di ipervitaminosi, vogliono farci scoppiare di salute, però scoppiare. Ste bastarde. E la frutta? La frutta è riuscita a plagiare la mente di alcuni esseri umani e a trasformarli nei suoi schiavi. Si chiamano i fruttariani. Sei fruttariana? No? Conosci i fruttariani? Sono schiavi della frutta. Queste persone mangiano solo e unicamente frutta fresca di stagione. Ora immaginateveli in settimana bianca, che cazzo mangiano? La neve? Che poi qualche fruttariano potrebbe anche provare a dirvi che la frutta, in fin dei conti, ha fatto anche delle cose buone. Tipo far scoprire a Sir Isaac Newton la legge di gravità. Ma pensiamoci un secondo alla luce di quello esposto finora. È stato un provvido intervento oppure un tentativo di assalto a una delle menti più geniali dell'umanità? Non dovrebbe stupirci, infatti, che la frutta stia cercando di ucciderci. Pensateci un attimo. Che cosa usa la strega per avvelenare Biancaneve? La mela, perché non cosciotto di maiale anche qui? Ora ci penso. Ci sono proprio le mele dietro a tutto quanto. Eh sì, perché una mela al giorno toglie il medico ritorno. Però, povero medico, magari stava venendo a salvarti. Oppure, in American Pie c'è il tizio che mette il cazzo nella torta di mele. Provano a infiltrarsi nella nostra vita fin da quando siamo piccoli. Ma infatti chi gli è mai fregato un cazzo di quante mele gli restano a Luigi se ne ha 8 ne mangia 2? Ma anche da grandi, no? Quando si dice cercare l'altra metà della mela sperando che non sia bacata. E l'albero che fa le mele è il malus domesticum. E malus in latino vuol dire cattivo. No, ragazzi, è chiaro, c'è una guerra in atto e noi siamo tutti in pericolo. A tal proposito, tengo dei corsi di autodifesa da frutta fresca. Vi insegno a difendervi da mele, lampone, fragola, ananas e soprattutto dalla pericolosissima banana. Grazie a tutti. Grazie, molto gentili, molto belli. Che bello essere qui. Valerio Aero. Gianni! A te. Dai, andiamo avanti. Chi è il prossimo? Decidiamolo adesso. Vai, decidi te. Una domanda. Sì. Sì. Sì. Sì. No, no, te umanamente. Però come vedi l'ha detto lui, non l'ho detto io. Perché sì, io sì. Cerco sempre di rimarcare una differenza tra me e lui. Io lo rivendico. Vabbè, ma infatti tu lo rivendichi. Io, no, io mi dissocio. Perfetto, io sono contento così. No, ma non è successo niente. Grazie per la domanda. Lui dice pezzo di merda a tutti, figurati. Ah, vabbè. Non ne farei neanche proprio una questione personale con lui. Vabbè, tanto da che pulpito, cioè. Vengono certe critiche. Guarda, io sono un uomo di un certo portamento. Beh, si vede. Guarda, è una delle prime risate che abbiamo ottenuto. Per farti capire il livello nostro, tuo, stasera. Oramai... Ho la coppola. Trattoria, hai la coppola? Sembra che hai appena finito di mangiare. Vuoi ruttare? Lo so. Io penso di avere un certo stile. Signori, facciamo un sondaggino breve. Chi pensa che magari verrò smentito io e sono felicissimo. Chi pensa che Valerio Ro abbia un certo stile, alzi la mano. Aspetta, sta crescendo, devo dire che stanno crescendo. Te la giochi, sei almeno la metà l'hai fatta. Vedi, vedi. Ah, sintomatico di un paese che sta andando giù. Ma la devi sempre buttare nella politica. No, no, politica, io parlavo più di società che di politica, caro mio. Io ti dico... Speriamo che questa destra raddrizzi un po'. Vedi? Vedi, ironico, ragazzi. Ho visto il gelo, cazzo. Ascolta. Che famo? Iniziamo a prenderci a schiaffi. Ma no, davvero. Tu hai un bicchiere, già è faticosa così. Se iniziamo pure a menarci... Ma secondo me... Cioè, arriviamo a metà scaletta, poi magari due sberle volano. O smettiamo di far serate, o ci ritiriamo stasera. Ma potrebbe anche essere. Sarebbe molto bello. Capito? Ma perché Harry la vive come una condanna il fatto di venire qua tutte le settimane. A parte che ogni qui... È vero. Perché ci dici... No, Enrico, dietro di te. Perché ci dici sempre sì, Enrico? Perché li voglio bene, siete dei bravi ragazzi, il posto è bello. Anche tu, Enrico, sei un bravo ragazzo. Lo so! Un applauso all'amore! L'amore vincerà sempre sull'odio, lo ricordatevelo. Vedi, lo vedi, noi siamo nati come brutte persone, a serata e brutte persone, perché? È finito tutto, è finito tutto, è finita questa serata. Porca puttana. Non ha più senso di esistere. So che volevi buttare giù il microfono di un impeto, era bello, sarebbe stato bello, cazzo. Poi dobbiamo pagarlo però. È quello il problema. Allora, chiamiamo il prossimo. Donna o uomo? Ma dai, adesso ci vorrebbe una donna. Ci vorrebbe una donna. Una donna che so che ha due fan qua che chiedevano, ma c'è prima lei? Te chi? La senti? Non, dimmi di farmi un cenno cambio. Ma chi è? Io lo so chi è, lei ha capito chi è. Sì. Mi guarda, ma non è convinta. Cambiamo. Dai, sali. Dai. Vai. Silvia Conti. Olè. Si è già configurata come serata di merda, quindi qualunque cosa succederà, la colpa non è mia. Innanzitutto ci tengo a togliermi gli occhiali perché sennò non riesco a leggere. Innanzitutto ci tengo a rivolgermi allo zoccolo duro del mio pubblico, che è composto esclusivamente da mio marito. E ci tengo a comunicargli che anche stasera sono qui per spalare merda su di lui. Bravo, continua a girare il video, poi vediamo se torna più utile al tuo avvocato o al mio. A parte questi problemucci personali, ci tenevo a parlare delle diverse generazioni, perché ogni generazione ha le sue caratteristiche. Ci sono i boomer, che sono i vecchi. Dal punto di vista economico li possiamo distinguere perché dispongono di una pensione e quindi di potere d'acquisto, e quindi loro conoscono il sapore di prodotti diversi rispetto a quelli a marchio Smart dell'Esselunga. Dal punto di vista tecnologico li distinguiamo perché amano i buongiornissimi, e da quando sono diventata presbite anche a me non dispiacciono quelle stelline, il mio preferito è buon mercoledì, madonna. E dal punto di vista sentimentale li distinguiamo perché stanno insieme a una persona da 40 anni e odiano quella persona da 40 anni. Poi c'è la generazione Z, che è quella dei giovani. Dal punto di vista economico li distinguiamo perché investono il loro denaro nei negozi di seconda mano e quindi si vestono di loro volontà come noi venivamo costretti a vestirci dai nostri genitori negli anni 90. Dal punto di vista tecnologico li distinguiamo perché sanno come si mettono le musichette su TikTok, e Dio sa se piacerebbe anche a me saper mettere le musichette su TikTok. La mia preferita è quella dei video dei gattini che fa paciu, paciu, paciu, paciu, paciu, ciu, paciu, paciu, paciu, ciu, paciu, paciu, paciu, paciu, e poi ricomincia, ve la rifaccio se serve. E in ambito sentimentale la generazione Z si distingue per le sue relazioni un po' che non ci si capisce un cazzo. Io sono una millennial e sapete come siamo noi millennial? Perfetti. Da tutti i punti di vista abbiamo anche tanti meriti. È grazie a noi che Paola e Chiara stanno per tornare a Sanremo. È grazie a noi che gli Articolo 31 andranno a Sanremo per la prima volta. Comunque noi siamo perfetti soprattutto in ambito sentimentale, perché noi abbiamo studiato, abbiamo letto Simone de Beauvoir, noi conosciamo tutti i tomi fondamentali del femminismo, noi sappiamo che il sessismo è sistemico, il patriarcato è radicato, e abbiamo imparato come si sta al mondo grazie a quei testi fondamentali che sono le vignette dell'account Instagram Freda e i veementi articoli di Vice Italia. Noi quando siamo in coppia non siamo come quei vecchi che si odiano, noi ci scegliamo ogni giorno. Tra i nostri meriti c'è anche aver sdoganato la psicoterapia. Noi abbiamo imparato a riconoscere le nostre emozioni, a verbalizzarle, e quindi noi siamo capaci di esprimerci ma anche di ascoltare l'altro. Se in coppia decidiamo di aprire la coppia, ne parliamo, valutiamo e apriamo. Se vogliamo chiuderla, ne parliamo, chiudiamo, apriamo, chiudiamo, apriamo, chiudiamo. Dopo un po' rompe i coglioni come il gatto che vuole uscire sul balcone a cagare d'inverno, però noi siamo millennial, per noi la comprensione reciproca è tutto. Questo finché io e mio marito millennial non ci siamo iscritti in palestra insieme. Che voi giustamente potreste obiettare, ma non vi erano bastati 2 anni di lockdown, sempre voi due, il gatto a cui aprire la porta finestra? Non vi erano bastati 3 anni di smart working, voi due sempre alla stessa scrivania di 1 metro per 1 metro a fare i vostri lavoretti intellettuali del cazzo, comunque tenendo il computer sulle ginocchia perché sulla scrivania c'era sdraiato il gatto? Dovevate proprio iscrivervi in palestra insieme? E la risposta è sì, perché in due avevamo diritto allo sconto, e noi millennial dal punto di vista economico ci distinguiamo perché insomma... Che cos'è la palestra? Lo spiego perché magari in sala ci sono altri intellettuali come noi che non ne avevano mai vista una prima di iscriversi. Allora, la palestra nel nostro caso è un grande stanzone bianco dove sono distribuiti degli ammassi di ferro e acciaio, i personal trainer. I personal trainer. Tra un trainer e l'altro ci sono gli attrezzi. 33 trainer entrarono a Trento, tutti e 33 trotterellando, e pensate che questo testo l'ho scritto io da sola, quindi cazzo, hai voglia di psicoterapia, proprio si sente che ho voglia di autosabotarmi. Comunque tra un trainer e l'altro si trovano gli attrezzi. Chi frequenta la palestra guidato da un trainer si sposta tra un attrezzo e l'altro per fare i suoi esercizi. Io e mio marito usiamo attrezzi diversi, ma lo spazio è limitato, quindi nel mio campo visivo, in un modo o nell'altro, c'è sempre mio marito, E il problema è che io vedo che quello, vedo quello che lui ha nel suo campo visivo. Si tratta di culi e tette in movimento. Principalmente si tratta di culi, ma anche di tette. Cioè, non che a me importi molto, però se dovessi fare una stima così a spanne, secondo me si tratterebbe dell'87,3% di culi e del 13,7% di tette. Su questo ho riflettuto molto e credo che sia dovuto al fatto che non tutte noi abbiamo le tette, ma ciascuna di noi dispone di un culo. Comunque noi siamo millennial, siamo perfetti in campo sentimentale, nessuna gelosia, nessuna recriminazione, assolutamente. Se ci va apriamo, chiudiamo, apriamo, chiudiamo. E non vi ho detto che tra i nostri pregi c'è che siamo politicamente corretti, siamo attenti ai problemi delle minoranze e noi facciamo attivismo sui social. È per questo che nel momento in cui mi accorgo che con lo sguardo mio marito in palestra punta su culi e tette, la mia prima reazione è quella di ergermi a difesa delle vittime di questa molestia. Quindi lo affianco mentre pedala sulla cyclette e bisbiglio al suo re: non guardarle in quel modo che sembri un maniaco. Un po' mi sembra una frase da moglie boomer che tratta il marito boomer da coglione in una di quelle scene che a volte si vede al supermercato nella corsia champagne e caviale che io frequento poco. Però l'effetto del mio intervento, del mio suggerimento non c'è. E quindi, nonostante mio marito mi abbia dato un segno di comprensione annuendo, all'attrezzo successivo lo vedo che si posiziona in modo da avere la visuale frontale su un culo in movimento. Quando il culo di suo interesse si sposta su di un altro attrezzo, egli si riposiziona compiendo una torsione del busto come quella che compie il girasole in relazione alla stella madre del nostro sistema solare, la stella che ci tiene tutti in vita e che tiene in vita anche mio marito. La mia seconda reazione da millennial quindi si inasprisce, lo affianco mentre ai pesi e gli bisbiglio: se non la smetti di fissare tette e culi, a casa le senti. E ovviamente per le senti intendo le 3 ore di documentario sul Me Too, sul consenso, e già che ci siamo, sulle biografie di Frida Kahlo e Coco Chanel con relative citazioni celebri, oltre che 2 album di Beyoncé. Lui non la smette di fare il girasole e quindi io ho una reazione successiva. Mi avvicino a mio marito mentre il personal trainer lo costringe a fare gli affondi con 2 pesi. Non so se avete presente un peso a destra, un peso a sinistra e giù con le gambe. Ecco, mossa sempre dalla buona intenzione di togliere dall'imbarazzo le ragazze infastidite dal suo sguardo da porco, grido in direzione del trainer questa volta: bravo, di questo fagliene fare 100 serie, così poi a casa mi porta sui cestelli dell'acqua senza lamentarsi. Qua un pochino sembra che lo odio da 40 anni e in effetti dentro di me mi sento come se lo odiassi da 40 anni. Quando arriviamo a casa, dopo l'allenamento, riprendo il discorso. Faccio sedere mio marito sul divano e da sotto un lenzuolo scoperchio il plastico della palestra costruito con le mie mani, intagliando finemente una scatola di cartone che fino a quel momento era stata appannaggio del gatto. Grazie al plastico illustro i suoi spostamenti tra gli attrezzi e ricostruisco le rotazioni del suo collo in relazione ai culi in movimento sulla base di un modello predittivo di intelligenza artificiale basato sul reale movimento dei girasoli nella pianura padana, grazie al quale posso dimostrare in modo scientifico inoppugnabile quanto egli sia un porco, schifoso, bastardo, traditore. Tra di noi segue un dialogo in cui lui dice di non aver fatto niente, in cui io chiarisco che egli è un maiale, in cui lui si giustifica dicendo che uno sguardo non è tradimento, in cui io gli spiego che chiamerò mio cugino, quello grosso, per convocarlo in un duello domani mattina all'alba per risanare l'onore della mia famiglia. Egli ancora supplica, ma siamo una coppia basata sul dialogo e sulla fiducia, e io gli ribadisco che certo noi apriamo, chiudiamo, ma la prossima cosa che sarà aperta molto probabilmente è il suo cranio a opera di una spranga guidata dalla mano della mia ragionevolezza. In quest'ultima frase io riconosco un retrogusto di sopraffazione e violenza domestica che noi millennial deprechiamo e condanniamo duramente. Quindi cerco di espiare i miei peccati su Instagram. Pubblico subito 3 contenuti, 1 contro la violenza di genere, 1 contro la violenza domestica e 1 contro gli uomini etero, che alla fine è sempre colpa loro, che rovinano le ragazze come me, che normalmente sono brave ma travolte dagli eventi non disdegnano di fare le pazze, semi-cheat, perché a noi millennial le semi-cheat piacciono un casino. Silvia Conti, grandissima. Vabbè, che bello. Bicchiere nuovo. Silvia Conti! Arrivi in differita tu. Che bicchiere siamo? Che numero è, campione? Ma sarà il terzo. Qua. Sarà il terzo, già vuol dire che è il quinto. Proprio per la regola del più due. Sai che allontana gli infarti. Sì, quello degli altri, non il tuo. Ti vedo bene. Chi chiamiamolo? Allora, ma te non volevi far polemica con qualcuno? Sì, ma sono uscite, quindi... Ma sai che... C'è questo gruppo di ragazze che se ne sta lì in fondo, no? L'inclusione, non ci ascoltate, ma non noi due, i comici, dove... Sono andate via, vedi, te l'ho detto. Merde! Stronze! Via! Non vi vogliamo! Cuor di leone, io te caso. Va bene, andiamo avanti col prossimo. Aspetta, c'è il cameriere col baffo? Cameriere col baffo, intanto è il gestore col baffo, quindi... Che... Si lamenta, dice che lo infastidiamo tutte le volte. Dov'è? È lì. È vero? Lui è contento, ha detto. Sì, ma non è vero che lo infastidiamo tutte le volte. Forse tu sì, ma perché parli sempre al plurale, mettendo in mezzo me? Perché la nostra sarà più tua che mia. Cosa? La nostra cosa? Questa è la tua serata. La mia serata si vede tra le persone che porto io. Le persone che porti tu si vede tutte le volte, si capisce. Io ho un Academy, lo sai. Si vede. I disperati si chiama l'Academy. Sono gente che... Chi è che ha urlato? Chi è? Ah, bravo. Bravo. Gabriele Donato! Colui che ha doppiato! Ercole! Il gladiatore! Quella voce su cui avete versato tante lacrime, proprio qui, fammelo al mio segnale, scatenate l'inferno. Dai, dicela. Al mio segnale, è lui, cazzo. Un applauso. È peggio dell'altro imitatore che abbiamo di solito. E lì siamo già dei livelli molto alti. Chiamiamo il prossimo, un tuo pupillo, un tuo uomo, già venuto qua se non sbaglio. Sì, è venuto, è venuto. Com'è andato, chi se lo ricorda? No, non l'ho mai visto. Però garantisci tu. Stai carburando, dai, che sono 10:40, vai che ce la facciamo. Chiamiamo lui? Chiamiamo lui. Max! Samaritani, credo. Buonasera, grazie. Prendi intanto il microfono, tengo lontana l'asta, eccoci qui, perché ho sempre paura che ci confondono, allora le tengo lontane, cioè quella è l'asta, questo sono... Buonasera, buonasera a tutti. Ciao. Ciao, ciao. Io mi chiamo Max Samaritani e nasco atleta, muoio subito. E niente, poi da lì comincio a occuparmi niente, un po' di comicità, mi piace un sacco la letteratura e da letterato mi sono chiesto una cosa molto particolare, quanto sarebbe stato bello se i poeti avessero sfasato, è un concetto che vedo che crea una certa aspettativa, mi spiego meglio. Non lo so, cioè se Giacomo Leopardi avesse sfasato, no? Immaginatevi. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che la vogliamo levare o no? Cioè, immaginate la bellezza di questa cosa. Vedo che ha creato una certa ansia letteraria, sono contento. E così in realtà mi occupo un po' anche di fitness, come vi ho detto, nasco atleta, muoio subito e sono qui per fare una dichiarazione d'amore. Sono contento di arrivare dopo un po' quello che è stato detto sui mariti, perché in realtà io voglio dire che io amo tantissimo mia moglie, mi ha fatto un regalo bellissimo, tra l'altro un attaccapanni francese, d'artigianato, si chiama Ciclette. Bellissimo, veramente. Poi lei mi chiede sempre, sì però usalo perché te l'ho regalato, sì però usalo però te l'ho regalato. Davanti alla televisione fidati che si può usare, effettivamente è vero, se tu metti i piedi sulla sella dal divano la tele la vedi benissimo. Io ho provato un po' a fare dello sport, però non sono andato in palestra, io ho detto provo a fare qualcosa a casa da solo perché ho letto un articolo che diceva meno palestra, stessi risultati. E io non me la sento di non confermare questo articolo che ho letto. Allora ho detto, proviamo a fare gli squat. Provato a casa da solo, 112. Dopo due l'ho dovuto chiamare perché le ginocchia veramente... una roba... Però poi ho detto, vabbè, proviamo con le flessioni. Mi sono messo lì, a casa, ho messo le mani, sono appoggiato a terra e sono rimasto. Infatti, vedo che anche... Vedo che si poteva intuire, grazie. Facciamo un applauso perché veramente io volevo finire così effettivamente la battuta, grazie. Ma... Poi ho fatto poi il sollevamento pesi però perché mia moglie quando mi ha trovato per terra ho detto minchia tirami su perché sennò... E lì c'è stato questo momento fantastico per cui mia moglie mi trova per terra e mi dice cazzo però avevo appena fatto il pavimento e tu? Perché c'è questo problema un po' della polvere, no? Allora... io ho detto voglio contribuire a casa e ho preso il robottino quello intuitivo, questo elettrodomestico intuitivo tondo che va e che fa così, tu lo accendi e lui parte così. Comunque è intuitivo. Figuriamoci se praticamente si muove così da solo, tutti gli angoli che trova lui si ferma così finché non gli dai una direzione. E mia moglie dice, sì, è ottimo questo elettrodomestico che hai comprato, però siccome noi abbiamo delle porte finestra con le zanzariere, abbiamo un po' paura che si possano rompere. Non è che quando lo accendi lo puoi seguire? Che non abbiamo preso un cane, un gatto, nessun animale, lo trattiamo come un animale domestico. Io quando entro a casa c'è lui che arriva e mi fa le feste. Lo porto nelle aree cani, dico vai la polvere, vai a prenderla, vai, vai, vai. E lui la riporta. Ma in realtà io volevo parlarvi di una cosa. Io ho un problema con una cosa un po' particolare. La cosa americana si chiama Grey's Anatomy. Non so se conoscete la serie TV, no? Il medical drama, no? Ecco, io con Grey's Anatomy oggi voglio esprimere tutta la mia perplessità su questa serie TV, perché per me Grey's Anatomy è una serie TV antigenica. Perché non è possibile che su 40 minuti di puntata dei medici strutturati, infermieri, di un ospedale di Seattle così rinomato passino 35 minuti a trombare piuttosto che operare le persone. Dico ma cazzo, ma e niente, allora cioè, usiamo un termine che mi permette di stare comunque nel gergo medico, diciamo auscultare. No, cazzo, ma questi auscultano dappertutto, cioè auscultano in ascensore, auscultano negli uffici, auscultano. Io non vorrei mai essere un paziente dell'ospedale di Grey's Anatomy, anche perché mi immagino appena si apre l'ascensore ci sono un medico e la dottoressa che hanno appena finito di auscultare, arrivano e mi dicono salve, sono il dottore, piacere, col cazzo, prima ti igienizzi, poi magari ne riparliamo. E queste serie TV ti deviano l'immaginario sugli ospedali. Perché tu ti aspetti una cosa e invece vedi che questi sono lì che auscultano e invece è come guardare un film dove si ascolta, tu vedi che c'è il dottore lì col camice, arriva la paziente e dice sa dottore un dolorino qui, stia tranquilla che adesso la operano, parte la musica e per due ore si vede l'operazione di appendicite. Non è quello che ti aspettavi, non funziona. Comunque l'altra cosa che io non sopporto di dover guardare Grey's Anatomy, cosa che io ho sempre guardato tra l'altro per amore, perché l'ho guardato da quando eravamo fidanzati, sì, io guardavo Grey's Anatomy perché piaceva un sacco a mia moglie, stavamo insieme, eravamo all'università, pausa pranzo, a casa, mentre studiavamo, cosa guardiamo, cosa non guardiamo? Ma dai, perché non guardiamo Grey's Anatomy, che è sulla 7D, perché facevano solo Grey's Anatomy e Benedetta Parodi, Grey's Anatomy e Benedetta Parodi. A un certo punto, acceso, convinto di vedere Grey's Anatomy, c'era Benedetta Parodi che faceva un tacchino, ho detto, minchia, speriamo che non mi capiti mai quello che ha quel paziente lì, perché mi sono spaventato. Comunque, lei diceva, vabbè, mangiamo e guardiamo Grey's Anatomy. Io, ma che bella idea, amore, mangiare un bel piatto di spaghetti al sugo mentre stanno operando uno. Una bellissima cosa, perché io sono uno che col cazzo che gli va via l'appetito, se no... Comunque... Guardiamo questa serie TV e ci sono sempre solo dei medici bellissimi, tutti palestrati con i loro pettorali, che hanno sempre un motivo diverso per togliersi la maglietta. Sono lì che guardano uno e dicono, ah, ma questa parotite è veramente impossibile da curare, adesso come faremo? C'è che mi tolgo, ma cazzo, ma stai vestito? Esercita la professione da vestito. Comunque io alla fine, dopo questo sfogo, finalmente andrò a dirlo a mia moglie, basta. Io Grey's Anatomy non lo guardo più da solo, amore, perché io lo devo guardare solo con te, grazie a te, perché è bellissimo e io non posso stare senza Grey's Anatomy. Grazie, grazie, grazie. Grande applauso, Max Samaritan. Max! Max, Max, Max! Andiamo spediti? Beh, vedi tu. Sei. Non so, avevi qualcosa da dire. No, tu vuoi dire qualcosa? Vuoi chiedere come va? Si stanno divertendo? Lo io sai. Personalmente no. Ma mi piace che non te ne fotte un cazzo. Non so, vuoi chiedere a te? No, io... Vabbè, no, a posto così. Chi è che chiamiamo? Lo sappiamo? No, sì, sì. Aspetti, ah, sì, ti ho detto. Ah, lui è una persona di cui vado molto fiero. Ah, sì, è un altro... Umanamente lo odio. Pupillo tuo. Ed fa parte della mia academy. Della sua academy. Spero che muoia cagandosi addosso. È uno dei primi della classe dell'academy, Mi ha sostituito e sono molto fiero di lui perché mi ha sostituito come presentatore, mi hanno detto e ho fatto schifo al cazzo. È stata una roba imbarazzante. Gente che l'ha visto scendere al palco e ha detto... Però sei proprio un coglione. Perché non hai ancora fatto alla tua academy il corso quello di presentatore? Non l'ha fatto troppo bene. Ok. È tipo di super diplomato. Quindi io sono super fiero. Lo annunci tu allora. Io me ne vado già giù, guarda. Di questo comico, che definire comico è veramente un complimento. Questa persona con poco senso dell'umorismo che prova a fare comicità. Dai, tiro su Francesco Maggioni. Ma mandalo a fare in culo, Francesco. Ma Valerio, già lo sappiamo che è un grandissimo figlio di Troia. Quindi, la settimana scorsa, sì, l'ho sostituito presentando io questa serata. È andata veramente una merda. Cioè, io praticamente, scusami, Vale, io ero convinto di essere te. Ma effettivamente c'è un divario inimmaginabile. Guarda che stile che hai tu. Oltre a qualche chilo in più. Comunque, buonasera, io sono Francesco Maggioni, sono anch'io un doppiatore, conosco Valerio perché ci siamo conosciuti allo Zoo di 105, lui è arrivato e meno male che c'era, adesso fa tutto il figo, no? È la mia academy, eccetera, eccetera. A parte che mi ha fottuto il posto, ma comunque sia, fa tanto il figo così, però quando è arrivato allo Zoo, minchia, era un agnellino proprio, in mezzo a tutti quanti è arrivato, oh salve, scusate, è qui che si registra lo Zoo di 105 per caso? Non lo so, c'era lì, c'erano tutti i ragazzi dello zoo, proprio lui, proprio con la coda tra le gambe, c'era anche un pizzico di odorino di merda, ti ricordi, coglione, Testa di cazzo. Poi io esco fuori dal nulla, ciao Vale, oh ciao Fra, ma che bello, Poi sotto, dietro le quinte mi fa, sai, devo dire che mi stavi un po' sui coglioni quando ti ho conosciuto, però non sei male. Quindi io adesso mi metto a raccontare le nostre cose, così a cazzo, vieni anche te sul palco, così a cazzo, non so, non lo so. Questo è il mio pezzo, va bene, va bene. Allora, io sono Francesco Maggioni. Perché non hai scritto e tutti quei pezzi fanno cagare. Allora, io sono Francesco Maggioni e sono un doppiatore. Sono molto contento di poter dire che faccio questo mestiere perché è quello che sognavo fin da quando ero piccolo, proprio da quando sono nato. Poi crescendo ne ho capite le ragioni psicologiche, ovvero la ribellione nei confronti dei miei genitori. Sì, io volevo fare il doppiatore perché fin da quando ero piccolo i miei genitori mi hanno sempre detto di non parlare sopra le persone. Questa è la battuta più forte del pezzo, vedo che è entrata, è arrivata lui dopo, direttamente. Allora, sfatiamo subito un mito per quanto riguarda il doppiaggio. Non serve avere una voce figa per fare il doppiatore. Naturalmente parti avvantaggiato, è come avere una bella macchina, no? Però se a bordo ci metti Schumacher oggi, non è molto, cioè Schumacher in un tempo forse sì, sei parte avvantaggiato, cazzo, sai usare la voce, hai una bella macchina, non sto andando in confusione, non so più se sia voce, macchina, di che cazzo devo parlare, non lo so più, vabbè. Comunque sì, è la stessa questione anche del pisello, no? Non contano le dimensioni, ma come lo fai? Che poi tipicamente questa è la frase che dicono quelli col pisello piccolo, no? Ma sentite che cazzo di bella voce che ho, sentite che vocione, no? Questa voce profonda, matura, grossa, potente, no? Questa voce mi è uscita a soli 10 anni. Mia madre era molto contenta mi fosse uscita... Cazzo ridi? Cioè... Problema. Mia madre era molto contenta mi fosse uscita a soli 10 anni. Un po' meno contenta del fatto che fumassi da 5. Qua puoi ridere, questa era una battuta. Comunque sia, partendo dalla voce, ho studiato per sfruttarla al meglio, naturalmente, crescendo, no? Ore e ore di esercizi per migliorare l'articolazione. Avete presente con l'articolazione, no? Saper parlare bene. C'è un altro doppiatore in sala, appunto, Gabriele, che è il nostro socio dello zoo. Lui è quello, esatto. Lui è quello che ha fatto il gobbo di Notre Dame. Così a cazzo. Lo imito perfetto, Valerio. Ogni tanto ci confondono, ma anche in giro proprio, siete identici. Per quello che ho presentato io la settimana scorsa. Comunque sia, ho studiato ore e ore di esercizi, no? Articolazione, fonetica, l'addizione. Anche l'addizione, sapete cos'è, no? La storia degli accenti. Andavo dai miei amici, gli dicevo, si dice cielo con l'accento aperto, si dice scherzetto con l'accento chiuso, si dice così, si dice cos'è. Ad un certo punto loro mi hanno detto, fra, hai rotto i coglioni, va bene. Bene, con l'accento aperto, questa era fortissima, questa è potente, questa battuta così, no? Infatti, fare il doppiatore ti fa perdere un sacco di amici, incredibile sta roba. Comunque sia, una volta finiti gli studi, ho provato a trasformare questa mia passione in una professione, naturalmente partendo dal basso. Ho cominciato facendo il doppiatore dei film porno, solo che soffro di eiaculazione precoce e dicevo tutte le battute in anticipo, che è una cosa, il sync è la roba principale nel doppiaggio, quindi non andava bene. Poi per caso ho conosciuto Cristina D'Avena, che mi ha promesso che mi avrebbe portato lei nel giro, no? Ho fatto due conti, lei fa le sigle dei cartoni si fanno a Milano, doppiaggio, vabbè, comunque sia, ma in cambio voleva prestazioni sessuali. E lì ho detto no, Cristina D'Avena, col mio vocione proprio, non possiamo, e non perché hai 60 anni in più di me, no, non perché credo nel mio talento e posso farcela da solo, no, Cristina D'Avena, non possiamo, perché sono celiaco. Colorado! Comunque io lo dico sempre, quando sono qua e magari appunto me la prendo, D'Avena, no? Lei non l'ha capito. Bisogna essere biologi per capirla questa qua. Quindi sei tu la biologa, vieni qua sul palco, dai. Ah, porca puttana, infatti io lo dico sempre, prima di offendere qualcuno, porca troia. Stand up, eh? Porca puttana, boh, me la son giocata. È vero, comunque, è vero. Ho scoperto anch'io da poco che nella vena non c'è il glutine, infatti questo pezzo non regge. È una merda, perché già lo sapevate che arrivava quella roba lì e mi stona, cazzo, proprio chimicamente sbagliato. Vabbè, comunque sia, finita la storia con Cristina D'Avena, che non è vero, non sono celiaco, tra l'altro, io, cioè, figurati. Cioè. Ho scopato Cristina D'Avena e soprattutto mangio un sacco di pane. Comunque sia, mi sono rimboccato le maniche e ho provato ad entrarci da solo nel giro. Sono andato ad assistere agli studi di doppiaggio, a conoscere i doppiatori, i direttori, perché bisogna fare questo processo, bisogna fracassarsi i maroni, bussare alle porte e cagare il cazzo. Sostanzialmente questo è il mondo dello spettacolo, no? Fino a che ad un certo punto, quando hai assistito tanto ai turni di doppiaggio, arriva quel momento in cui chiedi di poterti far sentire e lì ti giochi la tua chance, no? Il tuo provino, proprio questo è il tuo momento. Allora, ok, chiedo il mio provino. I giorni prima ero talmente teso che ogni situazione nella vita mi sembrava di fare prove per il doppiaggio. Tipo, esco di casa e mia madre mi dice, torni per cena. Dal nulla veniamo e dal nulla torniamo. Ma quindi faccio la pasta? Perché non sono celiaco, vorrei ricordarlo appunto. Oppure sono al supermercato, la cassiera mi dice, sono 13,80 €. Tieni il resto, lurido bastardo. Ma quindi faccio la pasta? Era ancora mia madre perché fa la cassiera. Anche quando mi ha chiamato la Vodafone, uguale, no? Mi faceva un'offerta così. Se richiamerete ancora questo numero. Non me la ricordo più, era la citazione di io vi troverò, vabbè, che cazzo, vabbè, vaffanculo, sono ubriaco. Comunque sia, arriva il giorno del doppiaggio, arriva il giorno del provino di doppiaggio. Ero veramente tesissimo, no? Ero straansioso, perché vabbè, ovviamente, cazzo, era una roba importante, no? Praticamente, per farti fare un provino, mandano in onda, cioè ti fanno fare una prova con quello che stanno doppiando in quel periodo, cioè hanno lì sotto mano un prodotto e quindi ti mandano su quella prima cosa. Per farmi fare il mio provino mi mandano in onda, cioè mi mandano a fare il provino sul cartone animato di Batman e mi fanno fare la parte del pinguino. Il direttore del doppiaggio in cuffia mi dice: sì, è il personaggio che più si addice alla tua fisicità. Pinguino. Sono 1,94 m, porca troia. Il pinguino è Danny DeVito. Vabbè, comunque sì, ok. Sono pronto per doppiare, pronto, pronto. E invece no. Non ero pronto. Ero troppo in ansia, troppo teso. E non sono riuscito a dire una parola detta bene, fiati messi male, il fuori sync, senza considerare un'interpretazione da cane. E loro cazzo la volevano da pinguino. Quel giorno... Questa era forte, questa era forte. Questa si vede che me l'hanno scritta gli autori. Quel giorno non sono diventato doppiatore. Ma ho fatto me stesso una promessa, che non avrei mai più commesso gli stessi errori, no? Con l'ansia, la tensione, eccetera. Perché ho scoperto, adesso vi lascio anche con una... Vieni, vieni, vieni sulle mie ginocchia. Ti devo dire una perla. No, va bene, non facciamolo, che poi succede un casino. Vi lascio con una perla, no? Per fare le cose fatte bene bisogna divertirsi, che sia il doppiaggio, che sia il vostro lavoro, che sia quello che volete, bisogna essere sereni, divertirsi per fare questa cosa, non vivere con l'ansia. E quindi esco da quella sala, ok, demolito da questa cosa, ma con questo nuovo mantra. Ma in quell'esatto momento, e questa è storia vera ragazzi, esce una direttrice del doppiaggio che mi fa: ho assolutamente bisogno di una voce maschile, tu, io, sì, tu, vieni con me. Un'altra occasione adesso. Questa non me la gioco, c'ho questo nuovo mantra, allora entro col cazzo durissimo proprio. Va bene, ok, mi diverto. Fammi vedere questa scena, troia. Non gliel'ho detto troia, veramente, cioè, se no te lo giochi subito il mondo. Ok, fammi vedere la scena. Ok, lei mi spiega tutta la scena, no? C'è questa scena in questo film in cui c'è questo tipo che entra nel bar, il protagonista mi dice: ok, il protagonista entra nel bar, fa questo monologo lunghissimo, fantastico, dopodiché va a sbattere contro quel tizio ubriacone sullo sfondo a cui cade il bicchiere e fa grrr, sei pronto? Ok, cazzo, sono il protagonista, monologo e poi vado a sbattere contro quel tizio, va bene, pronto, pronto, pronto, forza, forza, tu fai il tizio ubriacone. Ho fatto quel tizio ubriacone, sullo sfondo, ho fatto grrr. Quel giorno non sono diventato doppiatore, ho fatto grrr. Ma cazzo, se l'ho fatto bene! Grazie! Grazie! Come presentatore una merda, ma come storytelling, dai, ci sta, eh? Ciccio merda! Vai. Se la canta e se la suona! Francesco Maggioni! E adesso... Subito così di botto? Allora, cioè, cosa facciamo con questa gente che è qua di fianco e che non gliene fotte chiaramente un cazzo? Sono i tuoi amici. No, non i miei amici, loro li conosciamo, quelli al tavolino. E le tipe là, vai in avascoperta. Vabbè, va piano, aspetta piano che il filo non è eterno, aspetta. Scusate! Vai, così mi piace delicato. Porca troia, la ragazza mi ha dato uno sguardo che secondo me ci fa un culo. Lascia stare quell'angolo lì. È sempre lì. Il solito discorso, perché se ha dato lo sguardo a te il culo lo fa a tutte e due. Perché te sei la causa di questa serata. Io non sono il tuo tutore legale, tuo genitore. Ma te sei la causa di questa serata, esiste per merito di Andrea Fadenti, un applauso! Tutto quello che succede qui è merito suo, è responsabilità sua. Però com'è che a fine serata i soldi li vuoi dividere? Vabbè, giusto. Chi è che parla? Vedi? Chi è che parla? Tipo. Creiamo silenzio. Lui è un tuo amico, sempre uno della tua scuderia. Vuoi salire sul palco? È il momento. Vai, guarda, ti dà una bottigliata secondo me. Ma è la seconda. Forse ci vuole un'altra bottiglia. Ne avete preso la seconda? No. Dalla non è nascosta. Beh, spero abitiate qua vicino. Comunque. Bene, ottimo. Fate come lui, ragazzi. Vi spieghiamo. Stiamo prendendo un po' di tempo. Perché? Pare che siamo corti. Ma pare che anche se finiamo prima non credo che ci sia la disperazione. Noi nel dubbio prendiamo tempo, perché se non prendiamo tempo dobbiamo fare un pezzo. No, io tocca a te. Noi due ci voglia. Io l'ultima volta ho fatto, tocca a te, che è la gente da un po' che non ti vede, manchi da un mesetto. Avete voglia di sentire una grande storia, di quelle storie di provincia, di Piacenza, di Valerio Eirò, di quelle belle dove fa il giugiolone in giro per l'Italia? Quelle belle storie tue. Ma Sei te quello che vuol chiudere a mezzanotte. Sei te quello che vuol chiudere a mezzanotte. Facciamo così adesso. E lui vuol chiudere a mezzanotte. È troppo presto o troppo tardi? Ancora quattro. Quattro. Ragazzi, a 11:30 vi mandiamo via tutti. Henry, chiudi te. Chiudi te. Va bene. Va bene. Allora. Vuoi fare qualche domanda a qualcun altro del pubblico? Guarda loro che gliene fotte proprio un cazzo. Guardali lì. Guarda. Sì, ma guarda la ragazza. Lei ti guarda, guarda male. Guarda la ragazza, guarda, guarda, guarda. Dalle lo sguardo, dalle lo sguardo. Mamma mia. Ti sta guardando malissimo. Hai visto? Sì, perché ci sta... Pensa, perché mi stanno importunando? Guarda che gelo, che silenzio. No, non so rispondere. Adesso stogliamo lo sguardo. Ti sei messo nei casini da solo. Sì, questa volta sì, è vero. Allora, al mio tre... Scateniamo l'inferno come... Comunque dovremmo fare una serata, una gara di doppiatori. Te, Maggioni, l'altro che viene di solito... C'è un altro doppiatore? Sì, quello che è della tua academy, che viene sempre sul palco... Ma è Maggioni? No, José. Ah, José. Sì, perché è barzellettiere e imitatore, mi rendo conto che... Ma facciamo ancora un po' i cazzi nostri. No, no, chiamiamo. Chi chiamiamo, tra l'altro? Ah, sì, lui. Un altro membro dell'Academy. Ragazzi, ah, sì, sì. Siete di sostegno. Tra l'altro stasera ce ne sono stati 7 della sua Academy. Per far capire quando le serate... No, ma infatti... Infatti è una delle serate più riuscite. Più riuscite. L'Academy Valerio e Rocchi, come vedo, non fa molta selezione. Io chi fa domanda, ho promesso lo schifo, vi porto lo schifo. Gente che al che pensi mi non la fanno mica esibire. Alla che pensi mi non gli fanno neanche prendere cocktail. Esatto. Signori, e adesso è il momento di un nuovo membro della mia Academy, una persona orrenda fisicamente, umanamente. Fate un applauso a quel sacco di merda di Alessio Sartori! Grazie per la splendida presentazione, Vale. Ti voglio bene. Bravo Ale! Dai, che dai, le aspettative, ragazzi. Dai, per piacere. Dai, grazie. Okay. Ciao a tutti. L'asta un po' io c'ho sempre problema con sta cazzo di asta, si vede che, ma sì, lasciamola così, cazzo me ne frega. Allora, buonasera a tutti, io mi chiamo Alessio e ho la faccia da matto. sì, allora, questa cosa, diciamo che nel corso della mia vita mi ha creato diversi problemi, qualche problemino me l'ha creato. Questa storia che vi voglio raccontare questa sera ne è la prova, è una storia vera tra l'altro. Allora, estate del 2015, siamo in macchina, siamo in tre, siamo io, il Gianca e Mimmo detto il maledetto. Poi vi spiegherò perché è detto il maledetto. Niente, siamo lì che stiamo scherzando, stiamo chiacchierando, tranquilli, parliamo del più e del meno. A un certo punto in macchina è il gelo, il Gianca si gira verso di me e mi dice: Ale, io ti devo dire una... Dove cazzo è andata la voce? Io ti devo dire una cosa, ho fatto una cazzata. E io faccio: Gianca, che cazzo di cazzata, cosa hai fatto stavolta? Io ho illuso una che non mi piace. Questa pensa che io e lei possiamo fare, ma in realtà mi fa schifo, perché mi voglio scopare un'altra. Mi faccio: e quindi Gianca, che cazzo? No, me la devi togliere dai coglioni. Faccio: io? C'è Mimmo, che è una bravissima persona, un bravissimo ragazzo, tra l'altro recita le poesie ruttando, non può andare lui. Ma no, no, secondo me tu sei la persona ideale. Faccio: vabbè, ascolta, dai, dimmi come cazzo è questa, dai, fatidica domanda, come cazzo è questa? È il classico sacco dell'umido? Dimmi la verità. Allora, innanzitutto, tu non sei Ryan Gosling, mettitelo bene in testa. Secondo, vai a fare in culo, ed è molto simpatica. Ok, in gergo, sei molto simpatica vuol dire che sei uno scarto dell'umido. Uno scarto. Ma ciò va bene, dai. Ok, dai, te la tolgo dalle palle, va bene. Lui, quella sera, aveva organizzato una cena con 40 persone, con quella che si voleva scopare e ovviamente con questo sacco dell'umido. Arriviamo, soliti convenevoli, piacere, ciao Alessio, eh? La guardo in faccia, ragazzi, era orrenda, orribile. Lo scarto dell'umido, veramente. Vabbè, allora, qui ho due possibilità, due. La prima, rispettare la promessa che ho fatto al Gianca, cioè togliela dai coglioni. Secondo, ubriacarmi e morire sul tavolo del ristorante. Ovviamente scelgo la seconda, ragazzi. Scelgo la seconda, mi ubriaco a merda. E intanto, da lontano, vedo che lei mi sta guardando. Ho detto, oddio, che cosa sta succedendo? Però mi guarda, non mi guarda ovviamente con interesse, mi guarda con schifo. E io nella mia testa subito mi dico, ehi, scarto dell'umido, tu come ti permetti di guardarmi con schifo a me? Io ti dovrei guardare con schifo, io, non tu. E allora l'ho presa sul personale, ragazzi, l'ho presa sul personale. Ho detto no, io stasera ti trombo, ho deciso, ti devo trombare. E allora vado lì, dopo aver bevuto 18 bottiglie, no 18 no, però ho bevuto un paio di bottiglie di vino, ero bello, bello pizzo, vado lì davanti a lei e le dico la cosa più romantica che mi viene in mente. Le rose sono rosse, le viole sono blu, la più bella sei tu. Ovviamente metteteci la faccia da matto, ragazzi, eh? Il risultato è questo. Mi guarda, schifata, e se ne va. Primo due di picche, ma non mi arrendo, io sono una persona tenace. Vaffanculo, andiamo avanti. Bon, finita la cena, ragazzi, si va tutti in discoteca, si va a ballare, vai, è il momento giusto. Ok, allora vado al bancone del bar, vado a prendere da bere. Ok, bevo un altro paio di cocktail. Ok, questo è il mio momento, questo è il mio momento. È lì che sta ballando, è in pista. Vado anch'io, con un passo sensuale, tipo questo. Ovviamente io, nel senso, nella mia testa ovviamente stavo facendo questo passo qui, nella realtà sicuramente stavo facendo così. Mi avvicino a lei, le vado dietro, classico, un grande classico, ma vado dietro, inizio a fare il ballo del serpente così e penso, mi avvicino all'orecchio e le dico, ogni attimo che io e te stiamo lontani è un attimo perso, quest'estate concediamocela per noi, questo è quello che penso di aver detto io, in realtà le ho detto... Ovviamente, ragazzi, era all'orizzonte, lo vedevo. Si gira, io la guardo così e se ne va. Secondo due di picche, non so quanti in questa sala possono permettersi di aver preso due di picche, uno in fila l'altro nella stessa sera. Non lo so, però. Io sono un tipo tenace e non mi arrendo, non mi arrendo. Finisce la serata, ovviamente io non capisco un cazzo, e viene fuori che alla fine il Gianca, beato lui, va a trombare. Il trombeur de femme mette il punto. Cazzi suoi, io avevo una missione. Finiamo in macchina, io, Mimmo il maledetto e questo sacco dell'umido. Andiamo a dormire a casa di Gianca, perché casa di Gianca era la più vicina e noi non capivamo niente. Quindi, tra l'altro, anche, vabbè, non lo dite ovviamente alle forze dell'ordine, eravamo in macchina, ragazzi, ubriachi marci, non so come cazzo siamo arrivati a casa. Il problema è che il Gianca ha questa casa per le vacanze e ce l'ha dentro in un residence. Questo residence è enorme, 7 piani di residence, 350 appartamenti, praticamente è un dormitorio per operai cinesi, cioè ti perdi dentro, è un disastro. Allora, noi sapevamo che era il quarto piano, ovviamente non si sa bene come, riusciamo a trovare l'appartamento, un ampio bilocale, zona giorno e zona notte. Ovviamente la zona giorno è adibita anche a zona notte, quindi... tiriamo fuori il divano letto, lei appena entra in casa si fionda nella zona notte e occupa ovviamente un letto a 6 piazze, c'era un letto a 6 piazze, ci stavamo in 18 in quella cazzo di letto, no, da sola, se l'è preso da sola. Vabbè, arrivo, ubriaco marcio, mi tolgo i vestiti, puzzavo di umido veramente, facevo una roba indecente. Intanto inizio a rovistare i vestiti, cerco qualcosa, perché comunque faceva anche abbastanza freschino. Cerco tra i vestiti del Gianco, ho detto, boh, ci sarà qualcosa che mi va. E trovo un pantalone grigio topo da running con due tasche, aderentissimo. Facevo un pacco enorme. Io ovviamente il pacco enorme non ce l'ho, però me lo faceva. e una maglietta con due frecce, una in su che diceva man e una in giù che diceva legend. Giallo fluo, eh? Giallo fluo. Bene, bene. Sono vestito per andare in guerra. E subito Mimmo il maledetto, che dormiva in camera con me, mi dice: Ale, se hai in testa quello che hai in testa, non lo fare. Ti prego, non lo fare. Ti devi vergognare. Ti devi vergognare! Ma io ero ubriaco marcio e non sentivo ti devi vergognare. E sentivo, ci devi andare, ci devi andare. E allora lì mi sono gasato, sì, sì, cazzo, ci devo andare. Vai, subito un bel pacchettone di preservativi in tasca, si vedeva che usciva proprio fuori così. Dall'altra parte le sigarette, sto pacco in bella vista. Io ho detto, io sono anche una persona abbastanza romantica, quindi le devo portare anche un dono. Volevo portarle un mazzo di fiori, non c'erano fiori, ho trovato una banana in frigo. Prendo la banana e mi metto sullo stipite della porta sua. Ehi, allora cosa vogliamo? Vogliamo farci una chiacchierata? Lei subito mi guarda, guarda, in realtà mi sa che volevo andare a letto io. Ma lì avevo capito che basta, avevo fallito, non c'era più niente da fare. E io ho detto, va bene, frega niente, ciao, la banana me la sono portata via. Lei subito, appena esco dalla stanza, corre verso la porta, la chiude. La sigilla, sigilla quella cazzo di porta. E poi in lontananza sento che digita con i suoi ditini di merda sul telefono. Sì, pronto, buonasera, sono in un appartamento con due uomini ma io non sono tranquilla. Cosa ha fatto la vigliacca? Ha chiamato i carabinieri, i carabinieri che di solito ci mettono una settimana per arrivare, quella sera sembrava che mi stessero aspettando giù di sotto nel parcheggio. Sono arrivati subito nella hall, immediatamente. Ovviamente lei, non sapendo il numero dell'appartamento, perché lì gli appartamenti sono tutti numerati, non è riuscita a dargli il numero dell'appartamento, quindi erano di sotto i carabinieri che aspettavano. Allora sono andati giù in reception dalla guardia notturna, hanno fatto mandare un comunicato a, cioè praticamente in filo di fusione, c'erano queste casse, sì, cerchiamo uno con la faccia da matto. Cazzo, uno con la faccia da matto ero io, ragazzi. Ero io, mi sono sentito un VIP, mi sono sentito come Michel Unzi che era al Festival di Sanremo. E io faccio, allora devo andare, ragazzi, questa sala la devo risolvere, assolutamente, la devo risolvere. Allora inizio a scendere tutte le scale, ovviamente non prendo l'ascensore, scendo le scale così, bello, con sta banana in mano. Vado giù, pacco in esposizione, la maglietta giallo fluo, man legend. Allora, arrivo ovviamente nella hall, buonasera, buonasera appuntato, buonasera. Mi stavate cercando? Loro subito vedo che fanno una faccia abbastanza strana, vedo che mettono la mano sulla fondina. No, ma no, tutto bene, non lo fare mai più, eh? Ciao. Si sono cacati addosso, i carabinieri se ne sono andati. Bene, ragazzi, ora ci ho voluto risolvere però un problema, perché io ho questa faccia da matto, però in realtà non sono veramente matto, quindi dovevo scusarmi in qualche maniera con quella ragazza. Quindi prendo coraggio, comunque sono un ragazzo anche abbastanza romantico, vado su, mi faccio una doccia, mi lavo, mi riprendo dall'ubriacatura, busso la porta, senti, ascolta, io guarda, non so veramente, ti volevo chiedere scusa. Non so che cosa mi sia preso, niente, poi l'ho tagliata a pezzi, l'ho mangiata. Grazie. Tutto bene, no? fratello. Alessio Sartori! Cazzo. L'Academy non si smentisce mai. La punta di diamante della Valerio Hero Academy. Noi coltiviamo predatori sessuali. Esatto. Requisito per entrare nella tua Academy. Per dirigere lo stupro, la violenza. Sì, sì. Tutta gente per bene, cazzo, prendi tu. No, scusa, sto male un attimo. Cosa è successo? Mi si è perso un momento. No, non sto morendo, così mi fai male però. Andiamo avanti. Allora, adesso chi portiamo su? L'ultima quota rosa della serata. Allora, già sta roba... Parla tu, spiegati no, tu. No, diciamo, nel senso, sta roba che noi in passato... Guarda come i buchi si stanno aumentando. No, è giusto. È giusto. E questo è previsto. È il momento della stanca questo. Noi in passato ci vantavamo di non avere neanche una donna in scaletta. Tu ti vantavi, tu. Io sempre sì, tu. Tantissimo. E adesso ne abbiamo due a settimana. Pensa te. Che vergogna. Che inclusione che facciamo. Capisci che è finito. È finito, brutte persone. È finito. Stasera tra l'altro lei è quella che ci farà andare in galera. Ci farà andare in galera a te. A noi. Sottolineo. Perché lei fa... Tra l'altro, questa è l'ultima serata di Natale, di dicembre dell'anno. Non si è percepito ci vediamo più, Sono contenti loro. Si vedi che felicità. Vabbè, date un segnale, felicità, almeno non ci vediamo più per... Sei tu Enrichetto? L'ultima questa. Non avevo realizzato. Tu pensavi ci fosse anche il 22, invece è l'ultima. Ma sono molto triste, però. Mi facciano una ragione. E andiamo oltre, dici. Sono d'accordo. Andiamo, dai, che tardi. Sentiranno la nostra mancanza. Esatto, non ci meritano. Vabbè, dicevamo. Chiamiamo, andiamo corti. Ok, signore. No, scusa, volevi dire. Cosa stavo dicendo? Oh, Elena Di Cioccio. Elena Di Cioccio. Ciao, sono Elena, 48 anni. Ultimamente mi rode un sacco il culo. Ma tanto, sono sempre incazzata, cioè mi è proprio venuta quella roba che ce l'ho, sembra meno, do fastidio, non mi va bene niente, sono pesante, sarà l'età, mi sono detta. Sono diventata poi anche poco empatica con le persone. Per esempio l'altro giorno ero al parco, tutto a posto? Vuoi una mano? È la parola empatica che ti ha fatto venire, anche a te tiro del culo? Siamo in due. Vuoi raccogliere? Dai, ti guardiamo. Tu raccoglilo, noi ti fissiamo mentre tu raccogli i vetri. Sapessi la mia vita, guarda. Allora, l'altro giorno ero al parco, vado in giro con il cane, a un certo punto mi imbatto in questa nuvola di mamme con i bambini e i cani. E dico, orca miseria, le vorrei evitare, non posso, però ci abbiamo i cani. E mi fermo a parlare qualche minuto e non mi va proprio. A un certo punto una mamma, neomamma col bambino comincia, no perché mio figlio oggi, no è veramente arrabbiato, è proprio, lo posso dire, è proprio incazzato. Io faccio uno sforzo e dico, vabbè, faccio finta che me ne freghi qualche cosa. Come mai? Le chiedo. Mi fa, perché guarda, lui, fosse per lui, sarebbe sempre attaccato alla tetta. Sempre, lui vuole sempre stare attaccato alla tetta, ma ha capito come si fa? E quindi lui si arrabbia, perché non può stare attaccato alla tetta. E dico, lo capisco, guarda. Anch'io mi incazzo quando non riesco a rimanere attaccata al cazzo tutte le volte che vorrei, capisci? Sono andate via, tutte insieme, sono sparite, così come sono arrivate. E questa mia amica mi dice, sì, però Ele, un po' meno, cioè, sei diventata proprio fastidiosa. Vuoi un consiglio da uno bravo? Fammi dare un consiglio da uno bravo. Magari ti dà una prospettiva diversa della vita, fammi dare un consiglio. Pensavo mi mandasse da uno psicologo. E invece mi manda da un life coach. Sapete cos'è un life coach? Sì, no, forse... Dai, fate almeno un corretto prima di Natale. Sapete cos'è il life coach? Il life coach è quel guru, quell'entità, tra l'altro sempre molto belli, molto lisci, molto rilassati, che parla per frasi fatte. È quel motivatore che ti insegna la vita e che ti insegna che 5 anni di università di psicologia non servono a un cazzo. tu la tua, il tuo know-how te lo fai su Instagram, dove dimora il sapere mondiale, no? Sotto ogni foto di culo sudato c'è una citazione, capito, della conoscenza del mondo, la filosofia, la religione, la storia, i grandi pensatori, tutti insieme, no? Nietzsche e Gesù Cristo uniti dal sacro vincolo del perizoma. E dico, vabbè, andiamoci. Vado nello studio del Life Coach, studio anche quello bello, con la musica rilassante, le piante, la luce soffusa. Io sono ingrugnita, cazzo che sembro un cinghiale depilato. E lui, appena arrivo, mi guarda con questo grande sorriso e mi dice, ah ah, è il sorriso la chiave della felicità. Questa deve averla letta sotto, capito, alle tette della Cipriani, una foto di Formentera su Instagram. E dice, ma sei molto nervosa. Grazie al cazzo. Che diagnosi illuminata. Tu ti devi rilassare. Ecco, se c'è una cosa che mi manda fuori di testa quando mi rode il culo, è qualcuno che mi dice che mi devo rilassare. Perché io lo farei se sapessi come fare, se no non sarei qua, capito? Quindi non me lo dire perché mi sale il crimine. Respira. Figa, ti do fuoco. Allora, Elena, giusto? Sì, Elena. Alla tua età, bastardo, alla tua età devi concentrarti sul piacere, no? Devi cogliere tutte quelle occasioni di gioia quotidiana che noi diamo per scontate. Ok, capito? Gioia quotidiana che noi diamo per scontata. Ok, sono 250 euro. San cazzo, scontate, certo. La mattina dopo devo andare in centro a Milano, penso a questa frase, dico, vabbè, attimi di gioia quotidiana che io do per scontata, va bene. Prendo la macchina, devo andare in centro a Milano, mi dimentico che, diciamo, Milano non è esattamente la capitale mondiale del parcheggio, capito? Quando arrivo in centro dico, Cristo, che cogliona che sono, dovevo prendere la metro, c'è un bordello, la settimana della moda, Natale, il mobile, un formicaio uno sopra l'altro, parcheggio zero, e comincio a girare come una pazza. A un certo punto vedo così da lontano una macchina che esce, dico, ah, minchia, un parcheggio, e cazzo, e penso al guru, dico, una gioia quotidiana, potrebbe essere il parcheggio. Capito? Schizzo più veloce di un attacco di diarrea, pam, mi infilo con la macchina dentro e dico, oh, la devo sentire questa gioia quotidiana, spengo la macchina, non sento un cazzo e dico, vabbè, ci sarà un altro momento di gioia quotidiana oggi, non lo so. Allora spengo la radio, faccio per prendere la borsa e a un certo punto alzo gli occhi e c'è uno come me, mezz'ora prima, un altro zombie. Ah, parcheggio! Dovevo venire in metro! Lo guardo e dico, io ho trovato parcheggio, pensa. E un po' sento qualcosa dentro lo stomaco, dico, dai, non è male questa sensazione, no? E mentre lo fisso, lui si gira, mi guarda e tipo fa, sgrana gli occhi, come se alla guida non ci fossi io, ma ci fosse, che ne so, una giraffa fluorescente. Io capisco, giro la testa e dico, oh, oddio, adesso lo fa, cazzo lo fa, ti prego, lo fa. E sento proprio con la coda dell'occhio che si sta avvicinando e comincio, ah, ti prego, chiedimelo, dai, cazzo, chiedimelo. E mi viene la stessa voce che mi viene quando si accende per errore l'ovetto vibrante. Sapete cos'è l'ovetto vibrante? Ah, beh, vedi. Allora, l'ovetto vibrante è un sex toy, è un gioco erotico femminile. No, perché? Femminile, sì, cioè per femmine, un ovetto, a forma di ovetto, proprio un ovetto, però anche maschile, perché in fondo una locazione dove infilarsi un ovetto vibrante, mi sembra che ce l'abbiamo tutti. È poco più grande di un ovetto Kinder, cioè ovviamente non è fatta di cioccolato, perché se poi si scioglie, figura di merda. Vabbè, comunque, questo ovetto è molto discreto, ha tre velocità, almeno il mio. Velocità base fa bzzz, un po' monotono, bzzz, vabbè, io non lo uso mai. Poi ha la velocità media, che è alternata, è tipo bzzz, bzzz, bzz, bzz, è molto carino perché bzz, ti tiene un po', oh, ti fa venire quella, se non sveglia, bzz, lo sento, oh, bzz, e non sai bene quando parte, fa bzz, bzz, bzz. Per esempio va benissimo per chi ha problemi con il caffè, per i cardiopatici che non possono bere il caffè, l'ovetto vibrante, oh, ti mette proprio, ti tiene un po' in pizzo, capito? Poi c'è la, vabbè, la velocità, la terza, che è quella, bzz, ah, mio Dio, un filo meno discreto, però insomma è, diciamo, la sua funzione. Poi c'è chi lo usa anche in bocca, ma non è comodissimo perché fa proprio quell'effetto che non, cioè, diciamo che per strada non va bene. Molto carino, 50 euro su Amazon con filo, batterie e telecomando tutto incluso. Telecomando te lo dai, lo, ti, insomma, lo dai via come tutto il resto. Allora, sono lì e dico, dai cazzo, chiedimelo, chiedimelo, chiedimelo. E comincio a perdere un po' tempo perché me la voglio proprio godere fino in fondo questa sensazione, faccio finta che non si capisce se sto o se vado, se prendo o se esco, faccio quelle cose che boh non si capisce e sento lui che si avvicina piano piano piano piano e a un certo punto sento toc toc e io mi giro con la stessa faccia innocente di Amanda Knox, sì? E lui, oh, per caso vai via! E io, no, no! No, no, no, no, oh no, oh no, no. E poi esattamente come quando un orgasmo, che dopo l'orgasmo c'è quel secondo in cui ne è ancora un pochettino, vorresti dare proprio l'ultima fiammata, per esempio io la stringo, non so voi, e proprio così all'ultimo secondo lo guardo e gli dico, ah, potevi venire in metro, sì. E lì ho capito che cosa voleva dire il life coach con piccola gioia quotidiana. Grazie. Vuoi l'ovetto? Sì, grazie. Elena Di Cioccio. Elena Di Cioccio. Ma Cioccio o Cioccio? Cioccio, credo. Cioccio, giusto? Un applauso alla Cioccio! Cioè, e guardate il momento live, vedete? La diretta, queste cose. Che è successo? È stato un danno. Ah, Mazzarella, Mazzarella! Facciamo un applauso a uno dei registi del Terzo Segreto di Satira, che è l'unica volta che può prendere un applauso per questa cosa qui. Cioè, lo conoscete solo qua, il Terzo Segreto di Satira. Quindi, ma, neanche ma neanche così tanto dal calore dell'applauso, se posso dire. Andiamo, gli ultimi tre. Chi c'è? Abbiamo una brava persona che viene qua, sì, da tanto tempo lui, e non si è mai convertita all'essenza di questa, insomma, serata. Insomma, lui poverino ci prova. Ma rimane sempre un grandissimo signore, un gran bravo uomo. Esatto, esatto. Io spero che una sera uscirà di qui e andrà a Troie. Meglio a trans. Una perla nel braccio e a trans. Che bella serata che sarebbe. Ci vedo tantissimo. È un vero piacere chiamare sul palco Alberto Vitali. Come l'hai chiamato? Alberto Vitali, a caso. Allora, intanto, buonasera, sappiate che io faccio colazione al mattino con un ovetto e non sarà più la stessa cosa. E, volevo dire, tempo fa sono stato, ne approfitto, adesso non c'è Francesco, è uscito, però io sono stato a Londra recentemente, sono stato al British Museum e l'ho visto tutto, tranne la stele di Rosetta, e non l'ho vista perché sono celiaco. Sei uscito, ma questa era corretta, questa era classificata come corretta. E, no, niente, volevo dire, anch'io sono un boomer, come diceva Silvia, anche se non lo dimostro, devo dire, perché ho a casa mia un quadro che, come Dorian Gray, invecchia al mio posto. E devo dire però che lui invecchia bene, uno di quelli sempre abbronzati, capelli brizzolati, occhiali da sole. E niente, per me è imbarazzante vedere che il mio quadro scopa più di me. Recentemente sono stato a un matrimonio, sono stato al matrimonio di Gollum. Devo dire però non è andata benissimo, devo dire la verità, nel momento dell'escambio delle fedi Gollum si è rifiutato di dare l'anello. Finito un po' male, però è stato comunque piacevole perché ho rivisto i miei amici Hobbit, con i quali mi piace parlare di illegalità e in particolare di pesca di Frodo. Lì ho visto anche, no, un mio amico, questa è una cosa, era molto bella questa. Io ho visto un mio amico, un amico dell'infanzia, è un ragazzo a cui manca il braccio destro, devo dire, in compenso ne ha due a sinistra, e, però è riuscito a integrarsi perfettamente nella società, riesce a fare quello che fanno tutti gli altri, è una cosa bellissima. Ecco, l'unica cosa da evitare è andare in barca con lui perché gira sempre in tondo. E niente, siamo a Natale, ci tenevo a dirlo, come avrete notato siamo vicini a Natale e, è un periodo particolare, un periodo anche di grandi delusioni. Io ricordo quando ho scoperto che Babbo Natale non esisteva, me l'ha detto un mio compagno di classe ed è stato un terribile terzo anno di liceo. E, a Natale delusioni, bisogna anche fare attenzione ai regali. Io mi ricordo quando ero bambino ho chiesto a mio padre il regalo, un trenino a Natale, e lui e mia madre sono entrati a mezzanotte così. A-E-I-O-U-Y. Comunque Natale, periodo anche di feste, di letture, di albero, di caminetto. E quindi ecco, sono venuto qua perché ho scritto una storia di Natale, una favola di Natale. Io ho scritto questo libro di favole, che si chiama Favole per dormire, per le mie figlie. E questo libro è stato tradotto, pensate, anche in arabo, dall'ISIS. E sono molto soddisfatto di questo libro, ho ricevuto anche recensioni positive, mi ha scritto tempo fa una persona, mi ha detto grazie mille, mio figlio non si addormentava mai la sera, io devo stare tutta la notte di fianco a lui, gli ho letto il tuo libro di favole, i servizi sociali mi hanno tolto mio figlio e ora dormo benissimo. E altre recensioni che ho ricevuto, grazie, leggiamo sempre il tuo libro ai nostri figli, siamo una famiglia di satanisti, siamo molto felici. Grazie, leggiamo sempre il tuo libro ai nostri figli, siamo una famiglia di ausilieri del traffico, saranno gli stessi di prima. E poi ho scritto, ho provato a scrivere io alla Disney, ho chiesto alla Disney se erano interessati a fare una favola con un film d'animazione con le mie favole, mi hanno scritto preferiamo fare un porno e mi sono subito iscritto a Disney Plus. Comunque ci tengo a leggervi questa favola, mi metto gli occhiali non perché sia un boomer ma perché mi faccio ancora tante pippe. E la favola di oggi si intitola Natalizia, si intitola La piccola renna di Babbo Natale. Se volete addormentarvi fate pure, tanto dopo c'è Ciccio Rigoli. C'era una volta al Polo Nord una piccola renna di nome Ambrogio. Ambrogio era in realtà nato a Milano, dove i suoi genitori gestivano un autolavaggio specializzato in parabrezza. Insieme erano andati al Polo Nord per una vacanza esotica e lì i genitori erano stati squartati e divorati da un orso bianco, lasciandolo orfano. Insomma, la classica bella storia natalizia. La renna Ambrogio era stata quindi allevata da una foca, che le aveva insegnato a procurarsi il cibo, a ripararsi dal freddo e ad applaudire. Adesso ho perso il ritmo. Questa imitazione della foca penso sia la parte più bella. E un giorno Ambrogio vide passare sopra la propria testa la slitta di Babbo Natale, trainata dalle renne volanti, e quel giorno capì che desiderava ardentemente diventare una renna di Babbo Natale. Si recò quindi alla fabbrica di Babbo Natale, dove migliaia di elfi stavano realizzando splendidi regali per i bimbi di tutto il mondo, con turni di lavoro massacranti, sottopagati e senza nessuna copertura assicurativa. Insomma, ancora la classica bella storia natalizia. Ambrogio chiese udienza a Babbo Natale, un elfo però gli disse che in quei giorni era impossibile. Il capo infatti era troppo occupato nei preparativi per la grande festa. La piccola renna Ambrogio si mise allora a piangere perché desiderava ardentemente diventare una renna di Babbo Natale. Pianse finché alla fine gli elfi, un po' per compassione nei suoi confronti, ma soprattutto perché si erano rotti i coglioni di sentirla piangere, gli rivelarono che Babbo Natale in realtà era nel campo dietro la fabbrica a giocare a curling con dei pinguini. Ambrogio si recò così a parlare direttamente con Babbo Natale, dicendogli «Babbo Natale, voglio far parte delle tue renne». «Ma quanti anni hai?» disse Babbo Natale. «Sei maggiorenna?» disse Babbo Natale, che conosceva un sacco di freddure. Per chi vive al polo, del resto, è normale conoscere freddure. «E soprattutto, sai volare?» aggiunse poi il miracoloso vecchio. «Purtroppo no», rispose Ambrogio. Pensavo ci fosse una polvere magica per volare. No, disse Babbo Natale, non esiste una polvere magica. Così come non si nasce sapendo volare, lo si impara con tenacia, impegno e soprattutto con una grande forza di volontà. Ambrogio, commosso, non riuscì a non applaudire. Sono già due imitazioni, oggi è la serata degli imitatori e dei doppiatori. Buon Natale, Babbo Natale aggiunse, sei pronta ad affrontare tutto ciò, piccola renna? Sì, Babbo Natale, perché lo desidero ardentemente. E allora vai a casa e credici, vedrai che ci riuscirai, disse Babbo Natale, che in realtà voleva solo liberarsi di lui e tornare a giocare a curling. Ambrogio tornò a casa e si impegnò a saltare sempre più in alto. La forza di volontà è tutto, si disse. Si rese però conto che saltare in alto non bastava. Se voleva davvero volare, doveva saltare nel vuoto, proprio come gli uccellini che escono dal nido. Ce la farò, si disse, lo desidero ardentemente, e si lanciò da una montagna di ghiaccio, muovendo le zampe come aveva visto fare le renne volanti. La forza di volontà è incredibilmente potente. Ma c'è da dire che la forza di gravità è ancora più potente. E Ambrogio precipitò al suolo spezzandosi le zampe tre costole e procurandosi una commozione cerebrale. Fece 12 mesi di ospedale. E quando uscì, come prima cosa, tornò alla fabbrica di Babbo Natale. Lì mise una bomba alla fabbrica con tutti gli elfi dentro, pugnalò ripetutamente Babbo Natale e rubò la slitta magica facendosi portare dalle altre renne minacciandole di morte. Insomma, la classica bella storia natalizia. Quindi, cari bambini, preparatevi alla magica notte di Natale. E se vicino all'albero, davanti al camino, invece del classico ho ho ho di Babbo Natale, doveste sentire oh oh oh oh oh, scappate! Buonanotte e un bacio. Alberto Vitale, dov'è Valerio Erò? Merda! Valerio! Valerio! Fa finta di correre almeno, pezzo di merda! Andiamo, dai! Sai chi c'è adesso? Vuoi ruttare? Dai, di qualcosa, parla, deambuli! Chi c'è? Chi c'è? Alberto Vitale! No, c'è già stato! C'è gente che sta morendo! Andiamo, il prossimo, meno due. E beh, manca solo Ciccio. No, e anche come manca solo Ciccio? No, a parte Enrico che abbiamo già detto di chiudere. Vabbè, grazie al cazzo, sono in due, manca solo Ciccio. Facciamo chiudere Ciccio? Ma chiamalo. Vabbè, vuoi Ciccio o Enrico? Tuo zio, Ciccio, vai. Enrico Veronica, un no. Applauso. È ingiusto questo, è ingiusto. Perché così tiepido di più? Ciao piccolini, ciao, bentornati, benvenuti, che bella serata, sono quelle serate che non le fanno in TV queste qua, poi belli tutti con delle belle voci, sì, tutti professionisti del doppiaggio, tutte attrici, con... poi io invece ho sta voce tipo telefonista delle BR, troverà il cadavere dell'onorevole Aldo Moro in via Caetani che ti dà un indirizzo giusto, cioè, però deve essere anche un po' distaccato, perché se no dice no, è troppo coinvolto. Bella serata. Allora, un po' inizio così. Inizio. Alcuni notizie storiche, preambolo storico. Mi sentite? Anche lì dietro, lì in fondo? Mi spiace. Allora, questo è un classico, un classicone. Io sono dell'Academy di Alberto Vitali. No, non l'avevo, me l'ero dimenticato. Poi ti metti per ultimo, c'è Ciccio, c'è lui, poi le BR, questa è BR, l'ho inventata mentre pisciavo. Dici, quella è Harry Veronica? Lì, mentre ero lì con il mio possente idrante, sto un po' romanzando. Alcune prefazioni storiche, allora segnatevele queste che sono belle e sono vere. Nerone, mi sto impostando anch'io, voleva fare il poeta. Hitler voleva fare il pittore. Charles Manson voleva fare il cantante. Perché vi dico questo? Perché prima di affossare i sogni artistici di qualcuno dovremmo indagare almeno sul loro eventuale piano B. Così ai posteri ce la segniamo questo. Che poi è vero anche il contrario, eh? Neck è un ragazzo a cui vogliamo tutti bene, Serio professionista, uno che si sbatte, vogliamo bene Neck. Però magari lui non voleva farlo il cantante. Cioè il suo sogno fin da quando era bambino era diventare un dittatore in uno stato centrafricano. Noi invece l'abbiamo incoraggiato, instradato in questa sua carriera cantante totale, finale. Due punti. Abbiamo, vogliamo bene Neck, lo ricordo. Abbiamo l'ennesimo cantante mediocre in più e magari ci siamo persi un grandissimo dittatore centroafricano. Eh sì! Cioè questa è una cosa importante, basilare! Io stesso, scusate se parlo ancora di me, scusate, io stesso non volevo fare il comico, questa cosa siccome si era capita negli anni, no? Cioè il mio più grande sogno artistico era fare la bidella alle scuole medie in via Tabacchi qua a Milano. La bidella, non il bidello, ma poi bidella, bidello. Cioè l'impiegato statale è come gli angeli, cioè. Non ha sesso, è come la fellatio, che è come i bambini, è come gli angeli, è come gli impiegati statali, non ha sesso. Quello era il mio sogno, quello era il mio sogno. E ora cambio discorso. Io sono così, no? Perché dici, bah, il trait d'union di Enrico Veronica, e dice, io cambio discorso, e in effetti io cambio discorso. Allora, in un certo ambiente della stand-up comedy italiana, tra l'altro questa è una polemica che c'è solo in Italia, secondo me, la stand-up comedy quella pura, quella ortodossa, allora certi argomenti, certe battute, chissà perché, sono viste di, ma non di buon occhio, argomenti troppo inflazionati, troppo nazional-popolari, poi paradossalmente sono gli argomenti più innocenti però. Le battute sulla suocera sono un tabù. Ora, come spendere un pezzo sulla suocera appagando anche un certo ambiente di stand-up comedy italiana? Io sono avvantaggiato perché parlo del mio vissuto personale. Io con mia suocera ho avuto sempre grossi problemi, ferri corti, lei vabbè per anni, lei vabbè, problemi, debiti di gioco prima di tutto. Più lei per anni mi ha ricattato con delle foto di natura sessuale con me e il suo cane. Ora, c'è da dire che sto cane, però sapete come sono i cani delle suocere? Sempre addosso, col sedere la lingua. Ragazzi, io non sono fatto di sasso. Io non sono fatto di legno, sono un uomo. Alla fine uno cede, no? E sta donna mi ha ricattato per anni. L'infida suocera, allora praticamente l'ho uccisa. Ho assoldato dei sicari ceceni. Ragazzi, i ceceni per queste cose sono i migliori, lavorano veloce, un bel lavoro, onestissimi prezzi. Poi naturalmente c'è il groppone del cadavere della suocera. Allora cosa fa? Allora l'ho frullato. Come si frulla una suocera? Prima si disossa, poi si taglia julienne, fine, poi mini pine. 5-7 minuti, lì dipende dalla coriacità della suocera. Siccome però anche mia moglie e mia figlia mi stanno parecchio sui coglioni, ci ho fatto il ragù poi con la suocera. E il Natale scorso a cena gliel'ho fatto mangiare a loro insaputa. Che, quando mi parte la brocca, ma che brighella di vento, eh? Guarda, quando mi parte la brocca, raga, non ce l'è per nessuno, brighella, eh? Ma che birba che divento io. Mi parte, ogni tanto mi parte. Ecco, questo è un piccolo pezzo sulla suocera che possiamo spendere anche in un ambiente di stand-up comedy italiana particolarmente esigente. Tanto questo vale sia come battute sulla suocera, sia che battute su MasterChef, che anche quello è considerato un argomento un po' troppo mainstream. Ora cambio totalmente discorso, come prima il mio trait d'union. Allora, non so se avete presente quegli uomini, soprattutto calciatori, quasi tutti calciatori, sudamericani o meridionali, che hanno a tutta schiena, li avrete visti, queste busti di Gesù Cristo a grandezza naturale, uno a uno. Ora non sappiamo bene quanto fosse grosso Gesù, facciamo la sindone, Ecco, ci hanno a tutta schiena sti enormi mezzi busti di Gesù Cristo. Che, ma ci pensate che esperienza incredibile, mistica deve essere fare sesso anale attivo con queste persone? Cioè, questo faccione Gesù che ti vede. Ora, cioè, è un mio sogno incredibile, cioè dopo bidella c'è quello, no? Fare sesso anale con questo schienone con Gesù che ti vede. Ora, sì, è vero, una bella esperienza, però c'è anche tanta ansia da prestazione. Ma perché, cioè, fare sesso anale non solo con Gesù, ma mentre Gesù ti guarda. Cioè che in realtà dovrebbe essere voltato, ma in realtà ti guarda, perché Gesù queste cose le fa, eh. È vero, tendiamo a dimenticarlo spesso. Gesù ci guarda sempre comunque, non è che, cioè, mentre facciamo sesso anale, mentre portiamo fuori il cane, quando facciamo... È così Gesù, eh. Ora, pensate l'esperienza incredibile, perché Gesù ci guarda e ci guarda sempre, noi tendiamo a dimenticarlo. Per esempio, Gesù, molti di voi, secondo me, tutti, nel pubblico, vi siete lamentati intimamente, e giustamente aggiungo, dice, ma quanti cazzo di comici di merda abbiamo dovuto vedere stasera? Cioè, pensate Gesù, non solo ha visto tutti questi comici, io sono il penultimo, quello dopo non è che sia tanto meglio, ma si è visto tutti quelli di tutti gli open mic nel mondo in contemporanea, qua a Lambrate, a Teramo, a Pyongyang. Cioè, questa è la mia idea di mondo, Lambrate, Teramo, Pyongyang. Cioè, questa è la mia vita, questa è la mia geografia. Tra l'altro, visto che in realtà qua mi spiace perché ci arriviamo davvero all'argomento. Cioè, pensate l'open mic di stand-up comedy a Pyongyang, quando a un certo punto il presentatore, immaginate un Valerio e Rocco coreano, sale sul palco e fa: stiamo per finire, ma c'è una sorpresa gradita, non era in scaletta, il nostro amatissimo leader massimo Kim Jong-un vuole salire per fare due o tre battute sulla suocera, voglio vedere se non ridete, voglio vedere se non ridete. Che poi io alla fine sono un po' il Kim Jong-un italiano, eh. Un posto in scaletta lo trovo sempre e mi piace macellare i parenti. Ma chi è che continua a farmi il coro? Perché è una cosa bellissima, ma sembra proprio un effetto una pedaliera del microfono. Cioè. Vado a chiudere con una battuta che è forse la mia peggiore, ma ve la voglio regalare. Vi ricordo che io le battute le interpreto molto. E come disse il chitarrista degli Eagles of Death Metal, in quella drammatica, tragica serata al Bataclan di Parigi, dopo aver udito la prima sinistra raffica di mitra, beh, pubblico difficile questa sera. Enrichetto Veronica, un grande applauso. Dai, dai che la portiamo a casa, dai che finiamo sto calvario, amico mio, ci stanno abbandonando, via, via, via. Enrico Veronica! Indifferita, Valeria Erò. E stasera la punta di diamante della serata, l'andamento della serata dipende totalmente allora da lui. Posso dirti che se c'è un pezzo di merda in scaletta è proprio lui. E l'abbiamo tenuto per ultimo. La brutta persona per eccellenza. Per antonomasia. Esatto. Io dico il nome, tu dici il cognome. Ciccio. È al contrario, va Rigoli. Buonasera, io sono Ciccio Rigoli della Enrico Veroni Academy. Sono dell'Academy di Enrico Veronica, ma vi chiederei di fare un applauso per Exalge. Questo bellissimo locale, non soltanto perché è un locale giovane, un locale che fa delle cose innovative, ma soprattutto perché segue le indicazioni di Azzurra di A2A. Non so se avete sentito la pubblicità, è quella bambina cacacazzo che dice spegni la televisione che consumi troppo, e infatti all'Exalge non hanno le luci. Cioè, non so perché il palco è illuminato da delle abat-jour di quelle che trovi negli alberghi di solito. Io non sono uno stand-up comedian, io sono più che altro un poeta, ma stasera non sono qua in veste di poeta, ma in veste di servizio sociale, perché siccome ormai siamo alla fine dell'anno, lo so che avete già fatto i vostri buoni propositi per l'anno nuovo, come tutti quanti, i soliti buoni propositi di merda, tipo quest'anno smetto di fumare, quest'anno vado in palestra, io tipo l'anno scorso ho cominciato a fumare in palestra. E allora, per evitarvi, diciamo, questi qui pro quo, vi ho selezionato 30 nuovi buoni propositi che potete utilizzare anche voi perché sono in Creative Commons. Nel 2023 io vorrei telefonare a Google e chiedere: scusate, mi ha cercato qualcuno? L'ha capita 1 su 30? Beh, è una buona media rispetto al consueto. Nel 2023 vorrei andare da un barbone, fargli un bel sorriso, porgergli 20 euro e dirgli: scusa, hai da cambiare in moneta? Nel 2023 vorrei chiedere a mio figlio: amore mio, ti piace Peppa Pig? Altri 10 minuti in forno ed è cotta. Nel 2023 vorrei aprire un bar, tabacchi e toilette e chiamarlo caffè e sigaretta, cacata perfetta. Nel 2023 vorrei andare al ristorante da Carlo Cracco e chiedergli: posso pagare coi buoni pasto? Nel 2023 vorrei andare alla cresima di mio cugino e quando il prete dice: rinunciate a Satana e a tutte le sue tentazioni, rispondere: ma col cazzo. Nel 2023 vorrei iscrivermi a Pilates la prima lezione e dire: ehi, ma c'è molta meno figa di quanto mi aspettassi. Nel 2023 vorrei andare da mia madre e dirle: ormai sei grande e ora che tu sappia la verità, sono stato adottato. Nel 2023 vorrei conoscere una ragazza, ma visto che sono un tipo all'antica, chiederle il numero di fax. Nel 2023 vorrei andare a confessarmi e chiedere per tutto, e chiamare per tutto il tempo il prete vostro onore. Nel 2023 vorrei taroccare la mia carta d'identità e alla voce professione scriverci sopra Jerry Calà. Senza motivo. Nel 2023 vorrei iscrivermi al partito nazista sardo. Aio Hitler! Nel 2023 vorrei andare dai testimoni di Geova e dirgli che sono disposto a passare alla loro religione, però mi devono dare anche MySky HD e il pacchetto cinema. Nel 2023 vorrei comprare un cane e quando mi chiedono di che razza è rispondere Platessa. Nel 2023 vorrei andare dai vigili a pagare una multa e dire: non è per me, è un regalo. Nel 2023 vorrei lanciare uno snack per ebrei ortodossi e chiamarlo Schindler's Bueno. Me l'ha rifiutata anche alla giornata della memoria, guarda, poi dici che non ci fa le battute sopra. Nel 2023 vorrei cantare sotto la doccia, ma a casa di un altro che in quel momento sta cacando. Nel 2023 vorrei andare a votare alle elezioni europee e sulla scheda scrivere: io comunque ad Angela Merkel due colpi glieli darei. Nel 2023 vorrei adottare un bambino a distanza, però i soldi deve venire a prenderseli lui perché io preferisco pagare in contanti. Nel 2023 vorrei presentarmi con due bagagli a mano all'imbarco di Ryanair e quando mi chiedono di lasciarne giù uno dire: va bene, allora quello con la bomba me lo porto. Nel 2023 vorrei entrare in banca e urlare: mani in alto, questa è una festa pazza pazza pazza. Nel 2023 vorrei scaricare un film porno e al suo posto trovare un film neorealista francese e dopo 2 ore col cazzo in mano chiedermi: ma quando è che scopano? Nel 2023 vorrei andare da mio nonno che ha l'Alzheimer e chiedergli: scusa, chi cazzo sei che non mi ricordo? E infine, nel 2023 io vorrei farmi prete, soltanto per poter dire alla fine della lettura del Vangelo: parola di Francesco Amadori, rendiamo grazie a Francesco Amadori. Valerio Rerò, Andrea Fadenti, Ciccio Rigoli, un grande applauso. Valerio Rerò, pezzo di merda, dove sei? Abbiamo finito una serata, purtroppo le cose belle finiscono. Esatto, bellissimo. Le stelle e del cielo sono stati con noi, signori, in ordine sparso: Alberto Vitale, andiamo con la musica, Ciccio Rigoli, Elena Di Cioccio, Enrico Veronica, Silvia Conti, Francesco Maggioni, Alessio Sartori, Ivo, Max Amaritani, Gianni Ginni, non mi ricordo più come cazzo si chiama. Grazie Alex Alge per averci sopportato anche questa stagione. Ma stiamo facendo il presepe vivente, cosa cazzo stiamo facendo? Vai tutti su. La Ragazzi, è finita, va bene così. Eh? Buonanotte a tutti! Aspetta, aspetta! I soldi! Mettete i soldi! Dove, dove? Nelle buste! Buonanotte a tutti, buon Natale! Beh, vale, ma se non hai voglia non farlo però! Se non hai più voglia non farlo più però! Ha ragione! Se non hai più voglia di farlo non farlo! Non ho avuto voglia io! Volete? Fate una litigata in rima! In pezzo! Enrico, vuoi fare una canzone? No, non hai le scarpe adatte. Grazie a tutti, buonanotte.